3, 2, 1, è pronto! Tararara! Salvo Lima, no? Tararara! Siamo tornati dopo un mese di più, no, di meno, vabbè, un certo numero di giorni, torniamo. Grande richiesta, uno ce l'ha chiesto. Sì, no, sì, è vero, due volte lo stesso. Quindi siamo... È vero, non vale, quindi uno solo, mannaggia. Vabbè, torniamo subito, e come da tradizione, i morti, subito, proprio, sì. Pam! È morto un cane, ma che sapeva parlare. È vero? Ha fatto una serie molto brutta. Ma chi? Brian Griffin. Ah, pensavo che volessi parlare di Pure lui, no, Paul Walker. pensavo parlassi del nazista Henrik Böhre, perché è morto anche lui, però è probabilmente quello peggio, meno peggio che è morto ultimamente, perché è morto anche Paul Walker, Già. che insomma, come crimini di guerra, credo che anche lui possa vantare. Ma aveva fatto anche quello là, Radio Killer, vero? Sì, ma chi? Henrik Böhre o... Tutti e due, non era uno era il cattivo e l'altro era il bravo, Può darsi, sì, vabbè, un orroraccio, non so perché, un cult, ma non ho mai capito perché. Uno dei meno brutti che ha passato Italia 1 la sera, tardi, no? Che il titolo completo era Mi chiamo Radio Killer. vabbè. Esatto, sì, era un sequel, però è un po' confusa la storia, non si riallacciava, non c'era Cuba Gooding Jr. Eh certo, è handicappato. Vabbè, però... Comunque, è anche un compleanno oggi, Ah, e quindi che dimmi. compleanno! Dimmi. Godard! Ah, è Ah. bene. È ancora vivo, sì, in È effetti. ancora vivo, ancora campa e ancora rompe i coglioni. No, vabbè, è discreto nel senso, non Vabbè, è però... A indiscreto, ecco. proposito di Paul Walker, c'è una notizia nuova nuova, eh? Di Fast and Furious 7. Tranquillizziamo tutti i fan, si farà, eh? E vai, oh, ce l'abbiamo fatta, ci sarà il 7. James Bene. Wan, purtroppo regista di questo settimo capitolo, e la Universal hanno tenuto una conferenza stampa e hanno detto, oh, tranquilli, ci inventeremo qualcosa. La sceneggiatura è complicatissima, quindi chissà quante cose dovranno cambiare. Però, a quanto pare si inventeranno che muore nel film, probabilmente ucciso dal cattivone del settimo capitolo, Statham. Questo potrebbe essere un'ipotesi, però tranquilli, si fa, vai, Si dai, fa, dai, e dai. ci saranno bambole assassine e una coppia di spiritisti, no? Sempre così nei film di One, ce le infileranno anche qui. È vero, Va è bene. vero. E Bambole di sicuro. con gli stramorti e i morenti e i moribondi abbiamo fatto. E, vabbè, buonasera, grazie. No, vabbè. Arrivederci. È stato bello. Vabbè, più che news, era un sunto della situazione. Ormai è passato un po', ma era uscito il trailer di Noah di Darren Aronofsky, che ha gettato nello sconforto tutta la nazione. No, davvero, ho letto un commento su 200 positivo, tutti sono preoccupati, disgustati, Lo dire disinteressati. di Aronofsky quel commento. Sì, infatti, stranamente. Oh, ragazzi, diamogli un'occasione, Sì. firmato D.A. E vabbè, e quindi niente, era giusto per prenderne atto. Poi oggi c'è una, vabbè, news, è uscita una foto di un film, sarà l'ennesimo adattamento di Frankenstein, Ah. però questa volta l'ha scritto Max Landis, che vi ricordate, no? Il figlio dell'omonimo, no, un omonimo, che aveva già scritto Chronicle, e quindi vabbè, era piaciuta come sceneggiatura ai giovani. Comunque lo scrive e è diretto da Paul McGuigan, che non so chi sia, e la cosa strana è che Igor, o Igor, a proposito di Frankenstein Junior, lo interpreterà Daniel Radcliffe, che è strano, io pensavo, figurati, lo piazzeranno a fare il dottore, invece no, è Igor con la gobba, sì, poi infighettato come al solito, però è una scelta interessante, in un film non interessante. Beh, ecco, mi attacco velocemente. Dai. Se vi siete imbattuti in MDB in questi giorni, in prima pagina ci sono vari trailer segnalati e ce n'è uno di Tarzan. Non so se avete cliccato, tu l'hai fatto, no? No, ho visto che c'era, ma non... A me ha incuriosito perché sembra lo stesso Tarzan, quello fatto dalla Disney, E infatti l'immagine sì. che hanno fatto una nuova versione, il 3D. Poi perché? Tarzan non è neanche uno dei più amati. Invece no, una nuova versione. tedesca. È un cartone animato, cioè computer grafica. Uscirà in 2D e in 3D il 6 marzo in Italia. Ed è una cosa disgustosa, veramente bruttissimo. Il regista è tale Reinhard Kloos. È una cosa bruttissima, proprio sprigiona tedescaggine da tutti i pixel. Una cosa inguardabile. Su IMDb, non so, sarà già uscito all'estero, ha già un 3.4. È veramente Madonna, bellissimo. Sulla fiducia. Vabbè, prendiamo nota. Andate a vederlo perché è veramente bello. Il trailer, poi basta. E beh, insomma, c'è un limite a tutto. Sì. E poi, vabbè, niente. No, ho finito, ricordiamo, ma è roba vecchia. E intanto Tarantino ha annunciato che il prossimo film sarà un western di nuovo. Con Lino Banfi. Quindi non era vera la storia che avrebbe fatto un film per genere. E non era vera neanche che avrebbe fatto la commedia all'italiana con Lino Banfi. Cioè, ancora tempo! Ci crede ancora, infatti. Doveva fare una gangster story, vabbè, comunque. Ha detto, mi piace girare western, ne faccio un altro. Sì, subito quel data di critica, che arroganza, sente di saper fare il western. No, ma non rompete i coglioni. Che palle, ogni cosa. Se non è Spike Lee, è qualcun altro. E ti ricordi, sì, che era uscito la notizia, che aveva già pronta la sceneggiatura, Black qualcosa, se non mi ricordo. E quindi Spike Lee si lamenterà di nuovo, basta, va ancora western coi neri. No, quindi... però, ti ricordi cosa dicevamo dopo Django Unchained? Sembra un'occasione persa perché poteva fare un vero e proprio western, cioè più alla... Non mix come... Exploitation. Forse ha sentito, cioè insomma forse era anche, cioè voleva fare quel tipo di film, ma insomma il western gli è rimasto lì e adesso lo rifà. Forse questo non lo contava come western, ma è la sua parentesi nel black exploitation, e quindi il prossimo invece sarà davvero western. Bene, sì. Bene. Se è divertito lo vuole rifare, noi ci siamo divertiti e quindi va bene. E poi niente, sì, che il film di Scorsese è stato confermato, sarà il suo film più lungo, The Wolf of Wall Street, durerà 179 minuti, quindi 3 ore poco meno. E, niente, questo film, si centellinano le notizie, non so neanche, mi sembra neanche si sappia ancora una data ufficiale. Comunque. No, perché la stanno continuando a rimandare. Esatto. Più è lungo il film, più la rimandano. Boh. Vabbè, sarà un bel mattonazzo, ma sembra comunque una cosa... più comedy che altro, è interessante, vediamo insomma. Al cinema, un film di 3 ore, boh, chissà come lo distribuiranno. Vabbè, ha messo Adele, metterà anche questo, insomma, sì. Visto che parleremo di Torino e di molto cinema indipendente, che è successo ieri? Ecco. hanno dato i premi dell'Independent Gotham Awards, cinema indipendentissimo. Sono sfidati due colossi del cinema indipendente, ma che andranno anche agli Oscar, molto probabilmente, ed è quello dei Coen, Inside Llewyn Davis, e quello di Steve McQueen, 12 anni schiavo o 12 anni da schiavo, uscirà in italiano. Io ho capito che è proprio 12 anni schiavo, infatti ho detto, ma no! No, vabbè, ci può stare, per carità. Pensavo traduzioni peggiori. Comunque, strafavorito era quello di Steve McQueen, 3 nomination, in realtà erano solo 7 categorie, non è che era una cosa lunga, però era quello con più nomination, 3, 0, ne ha vinte proprio 0. Miglior film ha vinto quello dei Coen, miglior attore Matthew McConaughey per Dallas Buyers Club e ha ricevuto il premio via iPhone, ormai non si presentano neanche più. Ma soprattutto Matthew McConaughey, vincerai una volta nella tua vita, perché non vai? Infatti, che cazzo. Poi vabbè, Fruitvale Station di chi è? Ryan Coogler, ne ha 22, quello che ne ha vinti di più, e ti farà piacere, miglior documentario ha vinto The Act of Killing. Vabbè sì, insomma. E come si dice, molti di questi ovviamente sono candidati anche per l'altro, super manifestazione dei cinema indipendente, che sono gli Independent Spirit Awards. Non so quando si terranno, il 27 novembre, no, il 27 novembre le hanno fatte, il 1 marzo ci sarà la cerimonia. Anche qui super candidati, super con tante nomination, i due che abbiamo appena detto, poi Nebraska di Alexander Payne, e per fortuna qualcosa hanno tirato su anche, vabbè, Blue Jasmine che esce la prossima settimana di Woody Allen, Before Midnight di Linklater, qualche nomination, miglior film è candidato, e forse, ah no, due nomination per lui, è Francis Ha, di cui parleremo tra poco, e una nomination per This is Martin Bonner, che parleremo anche lui, di lui, è nominato per il premio Cassavetes, cioè film girato con meno di $500,000. Purtroppo è candidato al miglior film straniero insieme a La vita d'Elle, di cui mi sembra che parleremo velocemente adesso, anche La grande bellezza, vabbè. E anche Don John candidato, qui ne parleremo, per sceneggiatura d'esordio, per ovviamente a Joseph Gordon-Levitt, ma niente film d'esordio. C'è dentro La bicicletta verde, il film mi sembra algerino, di qualche tempo fa, ma non ce l'ha fatta entrare nei 5. E boom, adesso ne parliamo. Sono usciti anche le nomination agli Annie Awards, il film, il cinema, la manifestazione per, come si dice, il cinema d'animazione, ecco. E non abbiamo visto nessuno. Ah no, beh, Ernest e Celestine, gli altri, no, anche Monster University, è vero. Gli altri sono tutti, madonna, cattivissimo me, i Croods, Frozen. Oh, madonna. A Letter to Momo. Già Frozen, sì, se ne parlava bene. E poi vabbè, quello di Miyazaki che chissà quando arriverà. E boom, partiamo? Sì, facciamo prima la posta del cuore. Ah già, è vero. Le poche richieste, vabbè, ce le leviamo subito. Allora, le ho messe a casaccio, erano tre. Ci facciamo proprio bastare poco. La prima era di Valerio, e non diciamo altro, magari non vogliono essere nominati. Tanto sono tre, quindi lo sanno chi sono. La Longobarda. Ah! Ci chiedeva un veloce commento sui film che ci sono piaciuti di più dall'ultimo podcast ad oggi. Vabbè, c'è stato un conflitto mondiale in mezzo. Vabbè, magari l'angolo Dario Argento sui peggiori. E qua sarà difficile, perché ci stavo pensando, non è che sia uscita robaccia. Non l'abbiamo vista, magari, ecco. Sì, infatti. Comunque, l'ultima puntata quando è stata? Prima di La vita d'Elle. Quella di The World's End di Wright. Madonna, sì, quindi in mezzo c'è davvero... Vediamo, parti tu. Ma valgono anche film che non c'entrano niente con gli ultimi usciti al cinema? Mi sa di no, No. Vabbè, chi se ne frega, andate, guardatevi tutti Vivere e morire a Los Angeles di Friedkin. Poi, che ne so, per l'anniversario della morte di Kennedy hanno fatto Parkland, che non inserirei in nessuna delle due categorie. Cioè, perfetto, vedi. A metà. Poi vabbè, ci è piaciuto molto Venere in pelliccia. Vabbè, io qui ce li ho più o meno in ordine. Vai. Te li dico e magari... Allora, l'ultima, abbiamo detto, era su quella chiavica di Mood Indigo e Bling Ring, Grandmaster, eccetera. Quindi subito dopo c'è Gravity di Alfonso Cuarón, in effetti è un film che abbiamo trascurato, beh, non abbiamo recensito, ma se ne è parlato tanto. Forse anche una scelta politica, non ne abbiamo voluto parlare, se ne è parlato troppo. A me è piaciuto, ma se ne è parlato troppo e... non so, sembra molti abbiano visto solo quello, perché è uscito 2 minuti in sala ed era già il film dell'anno. E non lo so, è un bel film, non mi era piaciuto troppo in sala, l'ho rivalutato mentre ne parlavo. E è bello, molto semplice nonostante l'aspetto tecnico. E poi vabbè, c'era quel discorso interessante sul fatto che, insomma, quanto è importante la realtà, cioè il fatto che giriamo i piani sequenza ormai come se fosse niente, ma cosa c'è di vero? È un piano sequenza finto, tra virgolette, come questo, è bello come uno vero, che ne so, quelli di Paul Thomas Anderson, vabbè, a me erano venuti questi dubbi vedendolo, però è un bel passo avanti tecnologico, ecco, mi dà meno fastidio questo di altre cose. E poi appunto, ripeto, storia sempliciotta, ma a me era piaciuta, un finale, sì, commovente, diciamo. Diciamo, è molto standard come storia, ecco, a me non era piaciuto troppo per questo. Alla fine sì, l'ambientazione era nuova, ma era una storia di rinascita come ce ne sono magari molte, però è lo spazio, cioè il suo fascino, e Sandra Bullock si è un po' redenta. Diciamo la verità, bellissimo film d'animazione, d'animazione, di intrattenimento, stop. Sì, Cioè, è proprio cinema di intrattenimento, eh? miglior blockbuster dell'anno, ci può Sì. stare. No, è cinema di intrattenimento ottimo, perché è veramente ben fatto e intrattiene, non c'è un momento di noia, nonostante alla fine c'è un personaggio su schermo quasi per tutto il tempo. Però basta, non parliamone come se fosse un super film, anzi film d'autore perché dietro c'è quel regista. È fatto bene. Poi vi consiglio di guardare anche quello spin-off di 7 minuti che ha girato il figlio di Cuarón e potrebbe andare agli Oscar, anche il cortometraggio. Sarebbe al Era primo. già a Venezia in Future Reloaded, quella raccolta di cortometraggi, ed era anche piaciuto. E, boh, insomma sì, piaciuto molto. Poi ovviamente bisogna chiudere gli occhi su tante cose, sia di sceneggiatura sia di verosimiglianza, però chi se ne frega, intrattenimento intrattiene benissimo. Poi è davvero la prima parte è tesissima, è davvero al cardiopalma, questo è. È un film imponente, nonostante sia un film con due attori e un green screen, adesso gliene rendiamo conto. Atto. Poi è uscito Insidious 2, tu non so se l'hai recuperato. No, non ancora. Un passo indietro, secondo me, rispetto al primo film, più che altro sono le stesse idee, la stessa povertà di idee su cui secondo me è più difficile chiudere un occhio, mentre nel primo è cos'era? The Conjuring, ecco, ci si poteva anche un po' stare al gioco. Qui comincia proprio a sentirsi che Wan ha bisogno di uno sceneggiatore. C'era qualche buona idea, una trama un pochino più interessante, ma non so. Poi, vabbè, c'era uscito quello di Besson, che hai recensito tu. Non so se Ah, vuoi dire qualcosa. abbastanza dimenticabile, divertente a tratti, ma niente di che. Un De Niro che torna a fare il criminale, vado. De Niro bravo, ecco, sì, questo Eh sì, sì. c'era Concordia. Poi non è uscito al cinema, o meglio, è uscito, ma credo in due sale. Ho recensito The Act of Killing, ne aveva parlato anche lui prima. Probabilmente uno dei documentari migliori dell'anno, fra i film più importanti dell'anno, anche se è davvero indigesto, nel senso che è forte, molto difficile. Infatti mi ha lasciato un po' intontito. Ecco, non è uno di quei film che ti piacciono, ma esci gioioso dalla visione, tutt'altro. È massacrante, anche perché è bello imponente come durata, ma è intensissimo. È piaciuto a Herzog, che l'ho anche prodotto. Recuperatelo, perché è un film, insomma, culturalmente e socialmente importante. Poi, 5 cose da fare a New York, no, era uno speciale. No, Poi era la un vita film. di Adele, un film sulla realtà. La vita di Adele, e ne parliamo anche per rispondere a Fabrizio C, che ci ha chiesto di parlarne. Sì, anche questo molto discusso, per le ragioni sbagliate, come al solito in Italia si discute dello scandalo e poi magari il film nemmeno lo si è visto. Molto bello, una durata che non si sente, una stupidaggine, non dovrei neanche dirlo perché non è importante, però è una cosa che incuriosiva molti, è un film così lungo. Diciamo che tra virgolette è una passeggiata. Un po' perché è un film bellissimo, un po' perché ben ritmato, ben costruito e ben recitato soprattutto, forse la cosa più importante. E sì, il vincitore di Cannes di quest'anno, forse i film che sto vedendo ultimamente mi sono piaciuti di più o molto di più, però è una bella storia d'amore, un bel film sulla crescita di questo personaggio, tra l'altro poi ne parliamo di un altro che me lo ha ricordato, tra virgolette. E beh, a me è piaciuto molto, non è il miglior film di Cannes, però capisco anche che la premiazione sia stata, diciamo, politica, perché in quei giorni si votava o si discuteva proprio del matrimonio tra persone dello stesso sesso, quindi è stata magari anche una cosa così politica. Beh, in Francia ci sta, sono un po' più. In Italia quando mai? Uno, quando mai esce un film così? Due, quando mai lo premiamo perché vogliamo dare un messaggio? È bello, un film caldo, come dice il titolo della graphic novel, il blu diventa paradossalmente un colore caldo, e grazie a queste due attrici bellissime e bravissime, anche se una come ha la faccia bovina, no? Sì, Una detta bovina. no? Una bellezza bovina, è vero, Adele Exarchopoulos, Exarchopoulos, non so come si pronuncia, è bella, una conigliona con i dentoni sporgenti, ma è bellissima. ve lo consiglio, vi consiglio la recensione di Giacomo Fratantoni, come al solito, perché è proprio una chicca, la ciliegina sulla torta. Vai. Sì, non mi ha convinto del tutto la recensione. No, è uno di quei film che dovrei rivedere. Mi è piaciuto, però non so, ecco, proprio mi serve una seconda visione. Però è 3 ore, quindi più avanti, molto più avanti. Bravissime le due attrici. Una, mi sembra che fosse negli Spietati invece questa di recensione, dice: una recita molto bene, l'altra non recita e lo fa benissimo, cioè è se stessa, proprio Adele. Perché molti hanno detto, vabbè, abbiamo qua la faccia, un'espressione, cioè, sì, però è proprio quello il bello, è naturalissima, è un film naturalistico, e lei è la perfetta recitazione per quel tipo di film. Prima o poi me lo rivedo. Per adesso sono come te, piaciuto a te di più, però tanti che stanno uscendo da Cannes gli sono avanti. Non bisogna considerare, non bisogna valutarlo in questo modo, chi se ne frega della Palma d'Oro, però il paragone scappa e per esempio... Vabbè, è normale, è uscito lì, è chiaro che il confronto viene per naturale. No, ovvio che non è che siccome ha vinto ma merita meno di altri allora merita poco, no, merita quello che è il giusto, però ecco, stavo proprio dicendo per esempio il passato, poi l'hai visto? Sì. Il passato io lo considero migliore, come si chiama? Quello di Refn lo considero migliore, quello di Polanski è migliore, siamo già al quarto posto e devono uscirne ancora tanti. Boh. Lo rivedremo. Beh, comunque un bel festival, sta uscendo un mare di ottima roba, purtroppo noi la vediamo un po' indifferita, sempre se la vediamo. Comunque sì, poi hai detto giusto, molti hanno detto è cinema realistico, no, perché è diverso, non è scarno come sarebbe un film realista, neorealista, quello che vuoi, è naturalistico. E poi sì, appunto, non ho capito questa necessità di, cioè la recitazione non è fare le facce. Soprattutto quando racconti un adolescente non è espressiva, sì, sorride e lei sorride, piange e lei piange, ma fa questo, non capisco certe critiche, non, davvero mi sfugge poi cosa voglia dire recitare per certe persone. Intanto è un film che ha una certa impostazione, e poi non sempre bisogna fare il mimo, vabbè, non capisco. Sì. Poi c'è Before Midnight, che ancora non ho visto, hai recensito tu. Perfetta conclusione della trilogia, se vi sono piaciuti gli altri due capitoli, mi piacerà tantissimo anche questo. Non è escluso un quarto, ma non penso, ormai la storia è conclusa. Poi Linklater sta facendo un altro progetto abbastanza simile, che tira avanti da 12 anni, quindi diciamo che la trilogia Before è conclusa. Bello, ritroverete tutto quello che avete trovato negli altri, stesso tipo di regia, stesso tipo di dialoghi, gli attori che sono maturati e sono sempre più loro stessi, non è più un recitare, non è più due personaggi, sono la Del P e Ethan Hawke che fanno se stessi. Un ottimo film, come volevo dire. Sì, è un film generazionale. Ai più giovani sarà piaciuto molto di più il primo. In effetti a me è piaciuto di più il primo perché è un film su due ventenni. Il secondo è un film su due trentenni e piacerà a un pubblico più maturo. Il terzo piacerà a un pubblico ancora più maturo. Quindi ognuno è un film che bisogna avere la giusta età per comprenderlo. Però, insomma, piacerà a tutti, sono sicuro di questo. Ottima sceneggiatura, mi sembra che anche questa sia candidata agli Independent Spirit Awards e probabilmente andrà agli Oscar. È scritta dai due attori insieme al regista. Buono, buono. Non è proprio il mio genere, però buono. Poi che è Lo uscito. recupererò. Tutti e tre, però dovrai farteli. Beh sì, per forza. Poi magari stringiamo un po', in effetti ci ho chiesto solo quelli che ci sono piaciuti, per ora va bene, ma poi già siamo a una durata Beh, sproporzionata. allora aspetta, Quindi, faccio veloce. Il passato ci è piaciuto a entrambi, ci sì, mancherebbe. molto. Quasi, quasi a livello di una separazione, la sua imperfezione è l'essere perfetto, perché sceneggiatura granitica, regia perfetta, però perde un po' di, non lo so, di forza. Il fatto che, cioè, è molto trattenuto, i sentimenti, questi personaggi chiusi in una casa che litigano, non litigano mai abbastanza ferocemente, ecco, come dovrebbero. È tutto contenutissimo, però è un altro capolavoro. Faraday, non so, non sbaglia un film e non sbaglia una sceneggiatura. Bravissimo. Te che dici? Sì, concordo. Beh, comunque è un film sui segreti, sulle cose non dette, quindi diciamo che ci sta questo tenersi tutto dentro. Mi è piaciuto molto, sì. Poi Mi è piaciuto molto il personaggio del bambino, adesso è passato un po', mi sono dimenticato il nome. Fuad. Fuad. È bello perché rimane sullo sfondo all'inizio, invece più o meno è la vittima di tutto, cioè ha visto delle cose terribili, assiste a cambiamenti importanti, nessuno se lo fila, soprattutto chi dovrebbe. E c'è una scena in metropolitana che mi ha commosso perché è davvero forte. C'è un momento finalmente di apertura, però arriva tardi, arriva in un momento che comunque è difficile. E mi piace perché i bambini sono esterni alla storia, però sono, sì, testimoni, spesso testimoni anche in tribunale, come abbiamo visto in Una separazione. Però gli dedica un'attenzione particolare, anche se poi li lascia sullo sfondo. Mi piace, evidentemente è una sensibilità particolare per la figura delle donne, ma soprattutto per i bambini. È un cliché, ma è vero, a volte i bambini sono molto più adulti degli adulti. Peccato solo la sorella, che è sorellastra. È un personaggio non scritto, non fa niente. La Sì, è lì. piccola, la Sì, grande sì, sì. invece ha un ruolo importantissimo, però la piccola è come se non ci fosse. È un po' un personaggio lasciato lì, non scritto. Poi velocemente, Machete Kills ha fatto schifo entrambi. Saltiamo a pie pari. Prima Jobs. c'era Prisoners Ok. di Denis Villeneuve, Ah. che tu mi sa che non hai visto, lo consiglio, un thrillerone molto ben scritto, anche questo, molto bello, una metafora, diciamo, dell'America post 11 settembre, con un ottimo Hugh Jackman e un ottimo Jake Gyllenhaal, bello, consigliato. Poi c'è Blancanieves di Pablo Berger, che è uscito in pochissime sale e ancora sta uscendo, leggo, che è un film muto spagnolo in bianco e nero, una cosa alla The Artist, anche se pare che sia un progetto pensato prima, vabbè, si dice. È un po' più serio come The Artist, è un pochino più intellettuale, nel senso che The Artist era sulla Hollywood di quegli anni, questo è sull'Europa, e cinematograficamente l'Europa in quegli anni, anni 20, era più interessante, era più, sperimentava di più, c'erano le avanguardie, e questo film racconta quel muto. Purtroppo non l'ha visto nessuno, l'hanno distribuito male, bello, bello, interessante, come non ha fatto innamorare, ma è intelligente come prodotto, come gioco cinematografico, e lo consiglio. E invece devo recuperarlo perché me l'ero segnato, ma rimanda, rimanda, rimanda, ancora è lì. Poi c'era quello di Kitano che è uscito, non è uscito, però è uscita una versione italiana e uscirà, no, anzi, credo che sia uscita Uscito, sì. sì, una settimana fa quasi, più o meno, in un video. Sarebbe il seguito di Outrage, è Outrage Beyond, buono, buono, buono, Kitano cresce, sta piano piano scendo. Non è il Kitano di una volta, non avremo più quel Kitano, però fa niente, ogni cosa buona la prendiamo e siamo contenti. L'hai visto te? No, ancora Ancora no. vederlo. Poi Jobs, questo potete anche evitarlo, a meno che non siete degli Apple maniaci, però bravissimo Ashton Kutcher, veramente, finalmente si è messo a recitare, è molto bravo. E poi Venere in pelliccia, vai te. The Canyon, se ne avevamo parlato nell'altra puntata, o Ah no, è vero, diciamo ma anche forse ne questo avevamo parlato tempo fa. perché tu l'avevi visto un po' di tempo fa, ma A non era Venezia. sotto Venezia, ma non so se ne avevamo parlato, mi sa di sì, boh. Beh, io non l'avevo visto, dico solo che i fan di Ellis sono una piaga, non tutti, ma soprattutto i fan di Ellis, perché sono andati a vedere e volevano un American Psycho 2, comunque quel tipo di film, non sanno chi è Schrader, poi molte di queste persone, quindi non hanno idea di chi è che ha diretto il film, perché c'è anche un regista, oltre allo sceneggiatore. Insomma, un film che non è stato capito, era ovvio, perché è stato presentato per certe ragioni, per certi attori e per come racconta e cosa racconta. E invece è un film molto intelligente, un film sul cinema che muore, o non è che proprio muore, comunque cambia, e pochi se ne accorgono. Schrader è uno di questi, è molto intelligente, è bello perché il film poi si viene integrato bene dal corto che Schrader ha presentato a Venezia, che racconta proprio come la realtà sta cambiando e come sia necessario cambiare il modo di raccontarla. E The Canyons è questo, è... peccato non l'abbia capito quasi nessuno, pochi l'hanno apprezzato, e invece è una delle pellicole più interessanti dell'anno. È un thriller, ma chi se ne frega, cioè il genere, la storia sono relativamente importanti, è l'occhio in questo caso che fa la differenza, e secondo me è una delle cose più importanti che sono uscite quest'anno. E boom. E cos'è che no, tagliamo, no, cosa erano le ultime domande, così la chiudiamo. Stiamo mettendo... Vabbè, Venere in pelliccia consigliatissimo, uno dei migliori film di Cannes, uno dei Polanski più belli, non dico altro, leggetevi la recensione, è stupendo, è molto femminista, anche se è molto intimo e parla anche di Polanski, è bellissimo, è divertentissimo, è un merito allo sceneggiatore teatrale che ha composto l'opera, ma è un film che Polanski ha fatto suo e lo ha fatto benissimo, era un finale stupendo. Ultimamente sto anche leggendo qualcuno che dice, ma quella danza nel finale, e ho capito, ma viene spiegato cos'è quella danza, che cosa sta succedendo, è grottesco, ma c'è un perché. Comunque, boh, io mi sono emozionato un sacco, il finale è stupendo, è un film meraviglioso. Carnage. Chiudiamo qui, e anche perché le domande sì, Carnage, le domande erano queste, abbiamo già risposto a tutti. I film peggiori non abbiamo detto, non ce n'è, Machete Kills, e basta, il resto è tutto bello, e il brutto non l'abbiamo visto, Zalone non l'abbiamo visto, ci chiedevano anche questo, ci chiedevano anche questo, abbiamo evitato accuratamente. Quindi Torino Film Festival, dai, siamo andati un solo giorno, ma incredibilmente abbiamo visto 12 film. Sì. No, è che è un po' la critica che si può fare a questo festival, l'unica. È un festival che, al contrario di tutti gli altri, non ha un tappeto rosso, non ha ospiti famosi, purtroppo non ha neanche gli incontri con gli autori, che è paradossale, insomma. Andiamo ai festival per vedere i film, dovremmo anche parlare con chi li ha fatti, conoscerli, però vabbè, contenti voi. Si vede che boh, non ci sono soldi, non vogliono venire fino a Torino, così bella. No, c'era Elliot Gould. Ah, è vero, sì, è l'unico, perché gli hanno dato anche un premio, forse. Sì, mi sembra di sì. Sì. Però, nel senso, ti ricordi il manuale di Locarno? Oggi c'è tot tot tot e incontri. Il manuale di Torino non c'era su niente. Cioè, questi sono i film, questo è dove li proiettano. Sì, è molto, molto da cinema, nel senso da multisala. Tanti film, programmazione, aperti a tutti, sale molto grandi, strapiene, Sì, soprattutto per quello. certi film. È un festival un po' di tutti, ma anche quello di Locarno lo è, solo che è un po' più ordinato, ecco, rimane uno dei più ordinati, e poi vabbè, sarà anche il posto sul lago d'estate, è tutta un'altra cosa. Comunque è andato benissimo quest'anno. Ah, ecco, perché ne abbiamo visti così tanti? Perché il difetto di questo festival è che sì, fa tante anteprime nazionali, però sono tutti di seconda o terza visione internazionale. Cioè, moltissimi film arrivano da Cannes, moltissimi arrivano dal Sundance, da Locarno stesso, da Venezia, da Roma. Alla fine, quelli in concorso ovviamente sono tutti nuovi, però moltissimi, c'erano già recensioni su recensioni in tutto internet, per non parlare dello streaming, tantissimi, a parte lo streaming legale su MyMovies, ma tantissimi sono finiti in rete, anche, cioè ormai sono anche in Blu-ray, in paesi anglosassoni, quindi è un po' il difetto di questo festival, che comunque... Tanti film belli, tanti motivi per andare, tanti nomi grandi c'erano, poi ne parleremo, c'era Jarmusch, c'era, come si chiama quello messicano, cileno, Arriaga. no, era direttore lui, Però c'era. Jodorowsky, Ah, Coen. Jodorowsky, beh, però appunto non solo era una roba già vista, ma non era neanche in concorso. No, infatti, però, Erano sezioni. ma motivi per andare c'erano, Sì, per carità, per Però assoluto, perché a Cannes non ci vanno in molti. È ecco. meno accessibile, più lontano, per cui va bene, è una cosa lodevole. Però il concorso, ecco, io non ho guardato bene, ma era abbastanza molto chiuso, molto, cioè, molti piccoli film. Poi c'era ottima roba, ho letto, però in confronto a Roma, per esempio, che già è sotto di qualche livello rispetto a Venezia, c'era un mare di roba. Hanno presentato solo quello di German, era, cioè, è stato un evento importante. Qui sì, è stato bello, hanno riproposto, però sarebbe bello vedere un po' di competitività, visto che è più vicino poi. Comunque è andato bene anche quest'anno, dico anche perché sono gli stessi dati dell'anno scorso, ma c'è stato un aumento del 34% dei biglietti e delle persone che sono venute, incasso totale 254.000 euro contro i 189.000 dell'anno scorso, successo, tanti film, come hai detto, buoni, che chissà quando vedremo. Ha vinto il messicano Club Sandwich, invece premio del pubblico a PIF per La mafia uccide solo d'estate, di cui parleremo dopo. Virzì ancora non sa se tornerà, lui che è stato direttore del festival quest'anno, si prende un paio di giorni per decidere. Molta meno confusione dell'anno scorso e degli anni scorsi, perché quello che avevamo sentito in coda era che ogni anno ce n'è una. Quest'anno, a sentire la cassiera, quando ho ritirato i biglietti, hanno detto sì, anche quest'anno qualche problema c'è stato, però meno. Magari tra un 3-4 anni arriveremo all'ordine, Sì. a furia di migliorare. I prezzi poi sono abbastanza dignitosi, ecco, rispetto per esempio a Locarno. Forse l'unico vantaggio è che, vabbè, no, lì c'è pure il cambio da fare. Comunque, insomma, prezzi da cinema, ecco, un film 7 euro, però un abbonamento da 10-15 euro ti vedi tutto quello che c'è quel giorno. Per cui, diciamo che, specie per chi vive in zona, ma diciamo anche per chi sta un po' più fuori, è un bel modo per recuperare certe cose. Noi siamo vicini, tra virgolette, e avrei voluto vedere quello dei Coen, quello di Jodorowsky, è un po' massacrante, ecco, per chi sta a 2 ore di treno. Però, insomma, è un problema mio questo, mi rendo conto. Diciamo che loro hanno facilitato un po' le cose quest'anno. Se può fare, insomma. Sì, Allora, sì. parliamo dei films. Allora, prima iniziamo con Quattro Americani 4, Quattro Terribili Ragazzi. No, non è vero. Quattro film che non so te, due mi sono piaciuti e due molto meno. E presi a coppie, sono due abbastanza simili e due abbastanza simili. Allora, parto con Drinking Buddies e Francis Ha, il primo di Swamberg, non mi ricordo il nome, Joe, Joe. e il secondo di Noah Baumbach, allievo ma amico di Wes Anderson. Due film simili perché sono stati messi nello stesso insieme, quello del Mumblecore. E che cos'è il Mumblecore? È un modo di fare cinema nuovo, americano, molto giovanile, in cui non ci sono grandi, diciamo, grandi limiti. C'è una storia tratteggiata e la sceneggiatura, e i dialoghi vengono scritti man mano che il film va avanti. Molta improvvisazione, bisogna essere tutti sulla stessa linea, bisogna essere molto bravi, bisogna essere molto creativi per tirare avanti un film in cui non si sa dove bene, si sa dove si arriva, ma non si sa bene come ci si arriva. Ed è un film che, secondo me, questo è un tipo di film, che secondo me è molto più divertente fare che vedere. Almeno questa è la sensazione che mi dava Drinking Buddies. Anche Francis Ha è stato catalogato come Mumblecore. Però, a sentire l'intervista di Greta Gerwig, bellissima, bravissima, una delle mie preferite, che è anche sceneggiatrice, non è assolutamente Mumblecore perché è tutto scritto quel film, cioè niente spazio all'improvvisazione. L'unica cosa che è in comune è che sono storie di trentenni americani, storie di giovani. Allora, sono simili perché, appunto, protagonisti sono questo tipo di persone. Perché Francis Ha è riuscito e perché Drinking Buddies no? Te sei d'accordo prima di tutto Io ho questo? visto solo Francesa comunque, ah, non okay. Lo premetto. Ah, hai detto che hai visto tutto, pensavo. No, ma perché poi ho guardato in locandina, non c'era, pensavo questo non mi ricordavo, non ti era neanche piaciuto, forse allora pensavo no, avessi no. Cassato. Penso che oggi sono stato anche redarguito dal vivo, da un mio ex datore di lavoro. Non parlare male di Drinking Buddies. Va bene, sono delle poste. Vi ricordo no, beh, non è che l'ho escluso, è che ho iniziato a recuperarli tardi, quelli che mi mancavano. E sì, sì, questo non c'è rientrato, ho preferito dare priorità. Esatto, sì. Beh, Francis A sarebbe bello anche solo perché c'è Greta Gerwig, che è la musa del cinema indipendente americano, di un certo tipo di cinema indipendente americano. Lei è Francis A, lei è il film e lei è il cinema indipendente, un po' goffo, un po' mal riuscito, un po' buffo, però di cui ti innamori, di cui esci pazzo, come si dice. Francis A è girato in un bianco e nero che ricorda ovviamente Manhattan, anche perché è girato a Manhattan, ma non la Manhattan di Woody Allen, quella che conosciamo tutti, ma una Manhattan più secondaria e soprattutto più Brooklyn che Manhattan. È un film che parla della New York di oggi, che è cambiata molto, e soprattutto dei suoi abitanti, che sono cambiati molto. Quei newyorkesi che negli anni 70 con Manhattan vivevano nei quartieri come Chelsea, Greenwich Village, che erano artisti, sono spostati tutti a Brooklyn e tra neanche 5 anni si trasferiranno tutti nel Queens, perché gli aumenti, gli affitti stanno aumentando tantissimo. E Baumbach, che è un artista, che è broccolino, parla di questa generazione, parla prima di tutto di questi artisti e poi della generazione limite dei 30 anni. Parla degli artisti e di New York, dove ormai non ce la si fa più a vivere di arte, non ce la si fa più a vivere decentemente, a non cercarsi un lavoro, ma a fare quello che si ama di più, non ce la si fa. E quindi tocca o trasferirsi, andare via da New York, andare via addirittura anche da Brooklyn, o tocca trovarsi un lavoro, e questi artisti non sono capaci di trovarselo. E poi, insomma, bisogna venire a patti con la realtà, ed è la stessa cosa che quelli al limite dei 30 anni devono fare. Cioè, arrivi a un certo punto in cui non puoi più coltivare quel tipo di sogni che coltivavi qualche anno prima. Speravi di riuscire a diventare un qualcosa e ormai hai quasi 30 anni e ti rendi conto che non ce la farai, devi cambiare. È un film che affronta questo scoglio enorme, uno dei primi grandi scogli della propria vita, e secondo me lo fa molto bene. Il personaggio di Francis è adorabile, è una sfigata cronica, gliene capitano di tutti i colori, però rimane comunque abbastanza positivo. C'è anche chi l'ha odiata, incredibile, ho letto su Twitter, l'ho odiata fino alla fine, c'era scritto. E niente, mi è piaciuto tantissimo lei. È un insieme, il film è un mix di cose giuste, dalle musiche, dalle riprese, da quel bianco e nero, da alcune scene, quando va a Parigi ed è sull'orlo di buttarsi giù da un ponte e nelle cuffie ascolta Everyone's a Winner Baby degli Hot Chocolate, è meraviglia, è fantastico. Ed ecco, in questo riesce benissimo e parla di questa generazione alla grandissima, quello che non fa Drinking Buddies. Questi sono trentenni non cresciuti, sto parlando di Nick Johnson, probabile che si chiami così, e quello di New Girl e Olivia Wilde, bravissima, che non crescono, sono tipi da birra loro, e invece i propri partner sono tipi da vino, gente molto più responsabile, più matura, e loro non crescono, rimarranno dei quasi trentenni a vita che non sanno come gestire la propria vita. Ecco, uno è molto profondo, è molto interessante come film anche stilisticamente, l'altro è un raccontino, una storiella vista tantissime volte con un'attrice bravissima, per il resto totalmente dimenticabile. Vai te con Francis. Sì, è piaciuto molto anche a me, è molto, un film molto piccolo, nel senso che molto, è proprio il classico indie, uno di quelli che magari rendono un po' più sensata la definizione, non tanto l'indie come genere, l'indie come modo di fare cinema, più modesto, più semplice, è un film molto leggero, perché volendo poi vederlo con un occhio più critico tende a, diciamo, a semplificare quelle problematiche, le vede dal punto di vista di un newyorkese, di un artista. E probabilmente la vita è un po' più difficile e la fortuna è un po' più rara, però è piacevole. La cosa più bella, il motivo per cui il film è tanto bello è soprattutto lei. Intanto è una bellissima ragazza, anche se viene presentata come, sì, è mascolina, però viene presentata come quasi fosse un brutto anatroccolo. Invece no, è una bellissima attrice, sì, un po' un fisicaccio che però l'aiuta a emergere sugli altri personaggi. Mi è piaciuto molto, lei è molto divertente da vedere, molto goffa, in modo, insomma, credibile. Mi è piaciuto, ecco, premetto, diciamo, l'unico momento che ho upgradato meno è non è proprio il finale, ma la parte immediatamente precedente, quando lei sta servendo il vino in questo evento, e lì tende a diventare più commedia, cioè sembra quasi rompere un po' lo schema tenuto fino a quel momento, quando c'è questa donna che lei deve seguire con la bottiglia e si mette a limonare con un ragazzino, l'amica si ubriaca, cioè sì, è divertente, ma sembra più commedia, mentre fino a quel momento aveva una sua identità. Per il resto, ecco, è coerente, misurato. La cosa più interessante è che è una dichiarazione, sì, d'amore, tra virgolette, alla musa, che insomma è la protagonista, è il centro del film, ma anche a un certo cinema, perché sì, tutti dicono Woody Allen, qualcuno dice anche Jarmusch, ma insomma Jarmusch è molto più, molto meno divertente, tra virgolette. È divertente, ma in modo completamente diverso. Quindi sì, ci sta Allen, ma ci sta soprattutto la Nouvelle Vague e il post-Nouvelle Vague, perché c'è molto Carax, primo periodo, quello di Boy Meets Girl, insomma quel bianco e nero, quel tipo di ironia un po' amara, insomma è il film di un cinefilo, diciamo, che si leva uno sfizio, che è un po' il suo punto di forza, ma anche il suo limite come film. Però mi è piaciuto molto, si sghignazza il giusto, poi c'è anche il momento più misurato, più drammatico, però mi piace lei, ecco, è molto coerente, molto sicura di sé, pur essendo goffa, pur cercandosi guai, perché non è solo sfortuna, lei un po' se la va a cercare, diciamo, però ci crede, poi è bello che questo in un certo senso nel finale la ripaga, al contrario magari di altri personaggi che sembrano così sicuri di sé e poi invece se la prendono in quel posto. È bello, è un film personale, uno sfizio che si è tolto, però funziona anche per chi lo guarda. È bello, bello. Un piccolo film molto divertente, molto emozionante anche, sì. Si caccia nei guai soprattutto per non ammettere di essere una pezzente. Cioè, il viaggio a Parigi Anche poteva se li evitarselo vuole. benissimo, invece, no, c'avete la casa? Ma sì, dai. E beh, lì poi era un momento di impulsività, quindi se non ha proprio senso. Ahoy, sexy! Bellissimo. Sì. E allora, gli altri due film, invece, gli altri due americani, questi li hai visti entrambi? Sì, adesso ho un vuoto su quali sono. Uno è The Way Way Back. Bonner e The Way Way Ah, Back. sì, ho visto che non avevo rimosso chi sono. Allora, This is Martin Bonner, non saprei ancora spiegare bene perché, ma a me è piaciuto tantissimo. È un film minimalista, semplicissimo, una storia che neanche si conclude in maniera cinematografica, potrebbe continuare ancora perché rimangono tante domande irrisolte, tanti quesiti che lo spettatore si pone, ma può anche rimanere così, insomma, va bene, non è necessario sapere come finiranno le vicende, soprattutto quelle di Trevor con la figlia. Va bene così. È un film che nella sua semplicità dice moltissimo. In quei volti, e grande merito del film, del successo del film, va ai due attori che sono bravissimi. Adesso dovrei recuperare i nomi perché uno è Richardson Arquette, questo me lo ricordo, e l'altro purtroppo non lo ricordo, vabbè. Appunto, è un film, davvero non so spiegare cosa mi sia piaciuto così tanto, ma è bellissimo, nella sua semplicità, nel parlare di queste di questi personaggi così semplici, così banali. Tira fuori delle emozioni, suscita delle emozioni che altri film te le strappano fuori in tutti i modi e non ci riescono. Questo con due inquadrature, con due personaggi in campo, lo fa così bene. Grazie anche a un'ambientazione perfetta, il deserto del Nevada, un po' come l'animo di questi personaggi solitari. E bello, deve molto, secondo come ho intervistato a distanza il regista, ha ammesso che deve molto al cinema di Gus Van Sant, ma secondo me molto meglio questo, almeno di alcuni Gus Van Sant. Molto probabilmente lui si è rifatto molto a Jerry di Gus Van Sant, che era ambientato forse 2-3 km lontano da Reno, ma questo è molto meglio. E niente, io ci ho visto delle cose molto, ho visto molte più cose dentro il film, anche l'ambientazione pensavo che fosse metaforica, della lontananza dei personaggi, che siamo come dei piccoli paesi in mezzo al deserto, uniti solo da una strada, insomma una cosa profonda, ma il regista mi ha detto no, è che sono cresciuto a Reno, mia madre è di lì, boom, bello come risposta. E anche in quelle inquadrature, so tu cosa hai pensato, in quegli zoom, rallentatore, la musica che cresce, musica lirica, sembra l'Ave Maria di Schubert, sui personaggi che escono dalla chiesa, ogni volta sembra una presenza divina, invece no, è solo il regista che gli piaceva fare quello. Ma anche per queste risposte, anche per il tipo di regista che è, mi piace, è un film così semplice ma così buono, non so, non saprei bene come dire, mi è piaciuto tantissimo. E poi parlo dopo dell'altro, intanto attacca a te. Va bene, sì, anche a me è piaciuto, come quello di prima, sono quei film piccoli che però funzionano, sono magari proprio perché sono più chiusi sulle storie, sui personaggi, c'è un po' più di sentimento dietro. Non so, mi viene da definirlo asciutto, un po' per il clima, e un po' perché è molto essenziale, pochi dialoghi, spesso non didascalici, ma comunque significativi, hanno sempre un peso, un valore, i personaggi parlano e insomma c'è sempre qualcosa che emerge. Bello, non sì, infatti è anche un po' difficile parlarne, è un breve e diretto in quello che deve dire. Mi sono piaciuti gli attori, sì, forse è questo che lo rende più simpatico. I due protagonisti hanno dei visi non da attori. Più che Martin, Travis sembra davvero, è un po' inquietante, a volte sembra, c'è la faccia dell'attore che metteresti a fare il manico sessuale, magari il pedofilo, però qui funziona, è l'imbarazzo dell'uomo che insomma esce di prigione, si trova davanti tanta generosità e reagisce a modo suo. È bello anche questo, no? Racconta un aspetto che sì, vediamo sempre nei film raccontato, quello del rientrare nella società, che viene spesso semplificato, comunque fatto dipinto come un passaggio piuttosto diretto, invece no, non è così semplice, specie quando il tuo crimine è più o meno terribile, ma rientrare, non solo rivedere i cari, ma anche persone che ti aiutano, piene di carità cristiana, magari vieni anche disgustato da queste persone, tanto gentili, come succede un po' a Travis, che ha bisogno di stare con qualcuno più silenzioso, più che magari capisce di più cosa stai provando, magari non ti riempie il piatto, non ti porta a casa sua, però fa qualcosa di più importante. È bello, sì, anche questo film piccolo, film che dice tutto quello che deve dire in pochi minuti, diciamo, un'oretta e mezza, anche questo, un'ora e venti, sì, sono... neanche. Beh, è bello, è... Sì, è un film semplice ma significativo, diciamo. Poi vale tutto il film solo la scena in cui rimane da solo Travis con la figlia, quell'imbarazzo, quel continuare a girarsi verso la cameriera, lei che se ne vuole andare e Martin che arriva di corsa. Bello, sì. Lì è talmente naturale, talmente verosimile. Lui, quello che fa Travis, uno degli Arquette, il meno famoso, In effetti sì, è inquietante, ma è bravissimo. È il classico personaggio che non ha fatto niente di male nella vita, ha fatto un errore, non ha neanche ucciso, cioè ha ucciso qualcuno ovviamente, ma non è un criminale. E però ci è rimasto sotto, ha proprio la faccia di uno che è scoraggiato e adesso sta tentando di tirarsene fuori, solo che si sente molto a disagio. Bravo, bello, quella scena è veramente bella. Mentre The Way Way Back, che non è, cos'era, era di Peter Weir, quello The Way Back, sì, non è il seguito, sì, di quelle, che magari siete rimasti plagiati, e non è neanche proprio uno di quei film da sabato pomeriggio sui canali Mediaset, secondo il titolo italiano, C'era una volta un'estate, che boh, è proprio brutto. È un film diretto da due ex sceneggiatori, adesso registi, Ned Faxon e Jim Rush, entrambi anche attori nel film. Ned Faxon è Lewis, un personaggio divertentissimo. Tu che l'hai visto, no? Quello con i baffi e gli occhiali, pelato, molto, sì, divertente, molto lasciatemi stare. E invece Jim Rush è quell'addetto agli scivoli. Li manda Alexander Payne, perché sono vincitori del premio Oscar per la sceneggiatura di Paradiso Amaro, molto discusso, a noi non è piaciuto, però vabbè, la sceneggiatura poteva andare. E a me questo non è piaciuto un granché. Te? No, non molto, ecco. Quasi per niente. Ecco, prima di tutto, non so se concorderai, sa di già visto in quasi ogni inquadratura, l'ambientazione è quella di Adventureland o comunque di tanti film simili, la famiglia disfunzionale quante volte l'abbiamo vista, questi personaggi solitari ma che hanno una crescita perché incontrano la persona giusta, quante volte li abbiamo visti, non avrebbe niente di che, niente di particolare per essere ricordato, se no non Sam Rockwell divertentissimo e magnetico, ogni volta che entra in scena finalmente il film respira e soprattutto è godibile, per il resto filmettino proprio, sì, alla fine diventa un filmettino da sabato pomeriggio Mediaset, se non ci fosse lui e non ci fosse tutto l'ambiente del parco acquatico, non che quello lo risollevi e ne faccia un capolavoro, però almeno lì scorre più velocemente ed è più divertente, ecco. Carinissima l'attrice che fa la sua vicina, per il resto poco da dire, non è piaciuto. Alò ha detto che è il più bel film del weekend, Alò si sbaglia. Ma Alò è pazzo, sì. Ha degli sbalzi di umore molto strani. No, io sì, diciamo che volevo liquidarlo proprio con un film che sembra televisivo, ma in tutto, non come storia, anche la fotografia, molto cheap, troppo cheap, quel televisivo economico, digitale, che insomma trovi un po' in tutti i film, che davvero, più che da domenica, sai, quelli estivi, visto che è ambientato l'estate, nonostante non lo vediamo col freddo polare. E, no, è proprio, l'ho trovato di un patetico, fastidioso, ma io non salvo neanche la parte con Sam Rockwell, che mi sembra sprecato e mi ha fatto tristezza, perché seppure qualche momento lo riesce a risollevarlo, è comunque tutto sul patetico, su una, insomma, non, mi ha messo tristezza, devo dirlo, in molti passaggi, e non perché era drammatico, ma perché proprio mette malinconia a vedere questa storia, già raccontata tante volte, semplificatissima in certi passaggi, perché poi vuole parlare di divorzio, di ricostruire la famiglia, di accettare la separazione, di temi importanti, e lo fa così, tagliuzzato, velocemente, con quel buonismo da parrocchia che mi ha irritato molto. Poi c'è anche, come si chiama, Steve Carrell, che dovrebbe fare il cinico, ma non funziona. Tra l'altro, ora che mi torna in mente, anche il doppiaggio che gli hanno piazzato su è proprio da filmaccio televisivo, proprio brutto e svilisce un po', però è la sostanza che non funziona. Ho trovato parte anche interessante, però anche lì quella battuta all'inizio che potrebbe essere, già ti dice, ma cos'è, così diretto, sembra già una cosa proprio, non lo so, solo il finale mi ha un po' risvegliato l'interesse, perché sembra, sembra andare in una direzione, poi in un'altra, poi in un'altra. C'è sempre quella dose di volemose bene che fa rabbrividire, però ecco, un pochino più dignitoso del resto, ma boh, non capisco come mai sia arrivato in un festival, anche se è un film, se un festival come quello di Torino, cioè, boh. Sì, come l'hai definito? Chiesastico, no? La parrocchia, sì. Sì, in effetti è proprio l'aggettivo che calza a pennello per questo film. Ma anche un po' Paradiso Amaro, perché sì, cioè, proprio quel modo di fare insostenibile. Beh, sì. Comunque la sceneggiatura è quella, lo stile è quello. Lì probabilmente l'hanno un po' tenuti a freno, ma sì, i problemi erano gli stessi, magari meno sentiti, ma ecco, mi ha dato meno fastidio Paradiso Amaro. Però era quel tipo di storia. Qui è proprio il suo punto debole, che è ancora più banale, cioè c'è il personaggio positivo che aiuta il ragazzino, cioè proprio uno schema ancora più ritrito di quello di Paradiso Amaro. No, non gliela stavo proprio facendo. A un certo punto ho detto, ma perché lo sto vedendo tutto? Sì, Era in effetti. quasi deprimente. Io mi sarò aggrappato a Rockwell, perché mi è piaciuto molto, mi piace lui. Ma lui sì. Tra l'altro fa sempre il suo balletto, quello. Faceva anche nel primo Charlie's Angel, terribile, però lì faceva un ballo bellissimo in una scena molto divertente, sempre quei passi alla Michael Jackson. vabbè, invece c'è stato anche l'horror. Eh sì, purtroppo, anche lì siamo dai livelli, no, non a livelli di The Way Way Back, ma livello proprio, ecco, non negativo, zero, ecco, piatto, nonostante uno dei due, Ciavoni, l'abbia definito capolavoro, ma lui si sbilancia sempre. Certo, è grasso. Andiamo in ordine, andiamo dal peggiore. The Conspiracy è tanto la stessa roba, sempre POV, found footage, mockumentary. Comunque, The Conspiracy, io l'avevo visto un mese o due fa, ma per una ragione specifica, perché Davide Pulici di Nocturno ne parlava come del nuovo Kill List. Madonna santa, che bestemmia. Vabbè, io ammetto di essere ormai intollerante sia al lattosio ma anche al mockumentary horror, e quindi insomma sono un po' prevenuto, ma non credo sia questo il problema. The Conspiracy è, come dice il titolo, come suggerisce, è un documentario, un finto documentario, anche found footage, ma poi si contraddice un po', sulle cospirazioni, no? Questi due registi che vogliono fare il loro primo film, o uno dei primi, non ricordo, e si appassionano a un barbone di quelli che poi non esistono nella realtà, cioè la tipica figura da film che sta sul marciapiede con il megafono e il cartellone, la fine è vicina, no? Quelle cose lì. Ecco, e loro ne trovano uno che è particolarmente convincente, lo seguono e si fanno raccontare in cosa crede lui. Alla fine poi queste cose sono le solite, il gruppo Bilderberg, l'11 settembre come complotto, solita roba. In mezzo però c'è qualcosa di nuovo. E quando stanno per arrivare al dunque, lui sparisce nel nulla, la casa viene svuotata, non ci sono più i suoi ritagli di giornale, anzi no, è strano, perché rapiscono lui, gli rubano tutto, ma lasciano lì, i giornali che lui stava analizzando in quel momento. Quindi i protagonisti, anzi uno dei due, può trovare questo cartellone e riprendere il percorso da dove lui l'aveva lasciato. Già questo è strano. E si appassiona, anche lui sembra impazzire, l'amico si allontana un po' perché ha paura. E alla fine però si lascia convincere, entrambi intraprendono questa indagine, ma mi fermo per lasciarvi quel minimo di sorpresa. E niente, è il classico mockumentary che la fa molto lunga, fa una lunga premessa in cui poi cita queste cose, Bilderberg, 11 settembre, insomma la roba più ghiotta per attirare chi è appassionato di queste cose, chiamiamole fesserie, qualcuno ci crede. E poi boom, c'è una specie di taglionetto. E dopo questo montaggio proprio frenetico, quindi c'è anche difficile annoiarsi, perché è una cosa martellante da videoclip che può fare chiunque, si passa alla seconda parte che è più o meno POV, diciamo, c'è uno stratagemma che trasforma il film in un film di punti di vista, ecco, dei due personaggi che indossano una videocamera. E qui capisci perché Pulici lo paragonava a Kill List, è quasi identico, c'è quel tipo di colpo di scena, quel tipo di rivelazioni, in realtà è proprio identico, cioè, anche esteticamente, anche come oggetti di scena, scenografie, è identico, c'è poco da dire. Io non sono il tipo che dice, ah vabbè, ha scopiazzato, punto e basta. No, insomma, c'è l'omaggio, c'è il debito, c'è... Qui no, qui è un riproporre idee già viste senza sforzarsi di dargli una, insomma, una spolverata. È proprio povero, davvero povero. Si accoda al fenomeno del documentary, del found footage, lo sfrutta come hanno fatto tantissimi film che poi magari sono anche arrivati al cinema, e niente, rubacchia, scopiazza, fa un film che non è brutto, ma è semplicemente anonimo, piatto, con gli orrorini da cassetta che giusto che restino sulle cassette, sui DVD, quello che è. Non capisco, fatevi una, se l'avete visto, se lo vedrete, dopo andatevi a leggere la recensione di Pulici, che è online, non dovete comprare per forza dal giornale, e ditemi voi, cioè, io che lo leggo spesso, più o meno ci sono abituato, ma è uno che ne spara proprio, si sbilancia e tira fuori, poi gli piace tirar fuori il latinismo, i grecismi, vuole fare il dotto, però è più che altro un nano dotto come quello di Biancaneve, è uno che davvero ha bisogno di, no è davvero, è uno che se la tira profondamente, forse l'ho già raccontato per Tulpa, è un omettino, quindi il paragone col nano non è una battutaccia, è proprio un uomo piccolo piccolo. Andate sul forum di Notturno, guardate la discussione su Tulpa, ve l'ho già detto, è una cosa... Lui si innamora dei film e gli altri non capiscono un cazzo, non è critica questa, è un comportamento da tredicenne, lo fanno i bambini sui forum, questo tipo di ragionamento, è proprio... è un filmettino insignificante, però se leggete la sua recensione sembra che il Messia è sceso in terra ed è entrato in un horror mediocre. Quindi niente... Lasciate perdere, Torino, potevi lasciar stare questo e mettere qualcos'altro, cioè, hai messo questa roba qui vicino a Jodorowsky, che piaccia o non piaccia, è un regista di spicco, quindi mi fa anche strano. Quello dopo, tanto passo velocemente, questo non l'avevi visto, è già un pochino più dignitoso come prodotto, stranamente poi torna, cioè cambia la direzione, ma torna questo film, perché l'anno scorso c'era VHS1, quest'anno c'è VHS2, e quindi c'è una continuità con il festival, è anche carina come idea, ti affezioni a un regista o a dei registi, mi sta anche bene, anche perché questo film qui non lo trovi in altri festival non di genere. Comunque di nuovo POV, di nuovo found footage, di nuovo documentari, comunque fusione di questi sottogeneri, e un episodio in meno rispetto al primo, se non ricordo male, l'ho visto un bel po' di tempo fa, comunque mi pare di sì, una durata inferiore, una cornice meno invadente, quindi tanto di guadagnato, perché il primo perdeva punti proprio per la durata, perché si appesantiva, qui sembra che abbiano capito almeno in parte la lezione, abbiamo solo, oddio, adesso fammi rileggere perché non ricordo poco, mi pare 4 episodi, sì. Sempre horror di vari generi, anche se si tende poi a mantenersi sul filo conduttore del POV, appunto. Il tema è quello, sono dei nastri ritrovati, questa volta la cornice è simile in un certo senso. Nel primo c'erano dei bulletti che trovavano questa casa abbandonata, qui ci sono due investigatori privati che cercano un ragazzo e trovano dei nastri nella sua casa e li guardano. Sempre un po' strana come situazione, ma vabbè, è un pretesto per... E questa cornice è un episodio a sé, ma non c'è nulla da dire, è una serie di salti sulla sedia, più o meno telefonati, anche se ci sono un paio di scene belle in cui il salto sulla sedia te lo aspetti perché c'è una figura sullo sfondo che pensi, adesso zompa e mi fa spaventare, i personaggi non se ne accorgono, e invece non succede mai, quello è carino. Comunque, ci sono i 4 episodi, il primo è Phase One, Clinical Trials, non so se è un titolo più lungo, di Adam Wingard, che poi è il regista di You Are Next, di cui vi avevo già parlato, e di altri episodi di VHS, il primo film, e anche ABCs of Death, insomma è uno che fa molti di questi progetti. Questo forse è uno dei più brutti, fa un po' eco all'episodio del primo film, lì c'erano degli occhiali con una videocamera nascosta, qui c'è un ragazzo che ha perso l'occhio e gliene mettono uno elettronico che va calibrato e quindi registra su un hard disk. E lui, da quando lo indossa, comincia a vedere dei fantasmi, quindi diventa una specie di paranormal activity con una trovata, sì, carina, perché lui li vede, ma in realtà non c'è nessun altro in scena, quindi non c'è neanche la differenza. Se lui li vede, noi li vediamo, quindi il trucco non funziona. Però, appunto, è un paranormal activity in pillole, quindi lo si tollera solo perché è breve. Mi sembra non ci sia altro da dire. Non so, ci fermiamo al singolo episodio, vai tu? No, beh, vai alla fine, tanto dirò due cose veloci. Va bene. Il secondo è A Ride in the Park di Eduardo Sanchez e Greg Hale, che ricorderete il nome, sono quelli di The Blair Witch Project, ma anche di Lovely Molly, che vi consiglio, è un POV un po' più interessante. Questo qui è strano perché non sembra un loro film, sì c'è la videocamera a mano, tra virgolette, che qui è una GoPro attaccata al casco di un ciclista. Però non ci sono streghe, non ci sono fantasmi, ci sono gli zombie. Questo qui va nel parco, si ferma perché una donna sanguinante, diciamo, lo ferma, lui l'aiuta, lei lo morde e diventa uno zombie. Quindi diventa uno zombie movie in soggettiva. Sì, in soggettiva forse non l'ha mai fatto nessuno, però dal punto di vista dello zombie sarà già visto. Di nuovo, non è importante l'originalità, ma come si propone un'idea. Qui sì, va bene, bellino, però è una cosa piuttosto toccata e fuga, veloce e dimenticabilissima. C'è un bel momento che mi è piaciuto, in cui si sposta, si infrange un po' l'illusione, e non vediamo più dalla GoPro del protagonista, ma vediamo il filmato di un compleanno di una bambina che viene interrotto da quest'orda di zombie che arriva e morde tutti. È un momento un po' più divertente, però per il resto calma piatta. Questi sono un po' i più piatti dei quattro, almeno secondo me. Poi c'è Safe Haven di Timothy Ayanto, che è un thailandese, e dirige insieme a Gareth Evans, che di nuovo ricorderete è quello di The Raid Redemption, quel gallese che è andato a girare in Thailandia e ha fatto, insomma, successo. Timothy Ayanto invece aveva diretto uno degli episodi di ABCs of Death, che era uno dei più belli, L per libido, e qui filma forse il miglior episodio del mucchio. È sempre POV, naturalmente, questa volta ci sono dei giornalisti che documentano la vita di una comunità, di una setta religiosa molto discussa, che nasconde segreti, si parla anche di violenza sui minori, insomma è molto macabra. Insomma, riescono a convincere il leader della setta a entrare e succede il casino, non vi dico niente. Parte lento, con un'atmosfera molto malsana, molto sporca, e poi diventa una cosa più frenetica. Però è divertente, è forse l'unico con un po' di creatività, un po' di gusto nella messa in scena, è marcio abbastanza, peccato forse per la storia d'amore che ci hanno dovuto infilare, insomma, questi personaggi a cui bisogna dare per forza vita, ma nel modo più stupido. Comunque bellino, tecnicamente e come idea è il migliore probabilmente. E poi c'è l'ultimo, Slumber Party Alien Abduction di Jason Eisner, che è quello di Hobo with a Shotgun, che era un corto di Death Proof, di Grindhouse, che poi è diventato un film, e lo metto subito dopo come preferenza. È molto stupidino, è molto spensierato, ma è più divertente secondo me. Sono dei bambini che rimangono a casa da soli con la sorella, fanno gli scherzi, si fanno i dispetti tra di loro, e di colpo la casa si inonda di luce e ci sono degli alieni enormi che li stanno per rapire, e loro cominciano a scappare. La cosa divertente è che la telecamera è attaccata al collare del cane, quindi noi vediamo il collo del cane e la scena, è molto intelligente come cosa. Quindi il cane è il testimone e noi siamo testimoni con lui. E niente, una corsa all'impazzata con voli, teletrasporti, luci abbaglianti, acqua, è davvero velocissimo, non ti lascia pensare, ma è quello che vorresti da un film del genere. Io mi sono divertito molto, per fortuna alla fine risolleva tutto il prodotto, però tirando le somme, il problema è lo stesso del primo film. Sì, qualche cosa si salva, qualcosa no, ma il livello è sempre dal mediocre in giù, a parte qualche eccezione. Non capisco perché non si può fare un bel film horror a episodi, magari farne meno, farne solo 3, 2, però sembra sempre che la costante sia la mediocrità, l'assenza di idee. Non capisco, e poi spesso sono registi che quando lavorano a lungometraggio sono creativi, quindi o lo fanno in questi casi con lo spirito sbagliato, cioè lo fanno tanto per, oppure ci sono limitazioni che noi non vediamo. Però è non capisco, mai un bel cacchio di horror episodi. Comunque, vedetelo, perché c'è chi si è sbilanciato molto dicendo che è un ottimo film, c'è chi è piaciuto tanto, più del primo, in generale meglio del primo per molti, forse anche per me, non saprei. È più leggero, questo è un punto a favore. Comunque, dategli un'occhiata, per una serata con gli amici funziona. Ma io sono andato a rivedere che voto gli avevo dato al primo, mi sono sorpreso, ma a quanto pare mi era piaciuto di più di questo. Però siamo lì, insomma, non è che è semplicemente altri quattro pezzettini in più del primo, insomma, non è che ci sia tanta differenza. E io odio le robe a episodi, però e l'inizio non è che sia dei più positivi. Il primo episodio, Dio, carino, più che altro per l'idea che non è facile nelle scene allo specchio non far vedere la telecamera e quelle cose lì. Chissà come hanno fatto, non so se hanno usato finalmente i Google Glass o una roba del genere, facile da nascondere, o semplicemente hanno messo un attore dietro lo specchio, che è molto più facile, come hanno fatto in tanti altri film, non lo so. Comunque per il resto sì, Paranormal Activity, che ha abbastanza rotto le balle. È divertente che per farli andare via devi trombarti una, quello è spassoso, sì. Soprattutto perché c'è lo zio di lei nudo fuori che vi guarda. Oh, è vero, sì. Va bene. Il secondo, io se odio di più una cosa, più dei film a episodi, sono i film con gli zombie, e quindi ho detestato il secondo, ma non più di tanto, insomma, l'idea sì, di soggettiva dello zombie non è che sia nuova, però beh, gradevole. Le GoPro a quanto pare sono molto resistenti, e questa è una cosa che mi interessa. Come dici te, però registrano su cassetta. Sì, una cosa strana. O comunque questi fantasmi, questi cattivi, li riversano su cassetta. Che sbattone, c'era lì un portatile, potevano guardarli sul portale. No, ma a quanto pare titolo. È il mercato nero che li trova e dice, li metto su cassetta. E vabbè, si aggiorni pure il mercato nero, che cacchio. Che cavolo, ecco. Invece il terzo bellissimo, inquietante, l'ho visto che erano quasi le 2 di notte, sì, ho avuto qualche problema a prendere sonno, il giusto mix di malsanità e comunque di un'idea originale, ben fatto tutto. Poi la storia d'amore, vabbè, porta a una svolta nella trama che è accettabile. Forse il difetto è che ci sono troppe telecamere, ogni personaggio ne ha una sulla camicia, poi senza nessuna ragione uno dei protagonisti mette una telecamera in macchina, così si fa passare la microcam e dice, ah, dammela, la metto nel bagagliaio, e dice, ma chi se ne frega? E no, perché più avanti nel film lui andrà a prendere una cosa in macchina. Sono queste forzature che da fan footage, da film molto amatoriale, lo rendono un po' troppo strutturato, un po' troppo fatto bene. Però vabbè, insomma, si passa da oltre. Sì, anche il finale è un po' rivedibile, soprattutto perché c'è una deriva zombie, senza dire troppo, che poteva anche essere evitata. Ecco, se lo tagliavano quasi a un certo punto era bellissimo, poi ha un calo lieve nel finale. E l'ultimo, sì, vabbè, divertentissimo, veloce, una cazzatiella perfetta per questo tipo di film. Se anche i primi due fossero stati così divertenti, forse sarebbe stato migliore del primo VHS. Per adesso, come è scritto, è more of the same, cioè sono semplicemente altri quattro capitoletti. Sì, perché poi andrebbe bene se il livello fosse sempre come gli ultimi due, Sì, purtroppo non è così. ma anche come quello del primo, ti ricordi l'ultimo, quei quattro Sì, anche ragazzi che entrano per Halloween in una casa? quello velocissimo, sembra quasi che vogliano ripetere lo schema, no? L'ultimo è il più pazzo. Ma comunque Sì, ci vuole anche poco farli. appunto, ma poi non è che io voglio per forza, cioè lo voglio quando è possibile, l'horror riflessivo, intelligente, però qui non è che lo sono gli altri due. Cioè, è roba molto cazzara, per cui falla almeno divertente. Cioè, boh, sarò io che non mi spavento più col fantasma nello specchio, però dai. Cioè, non ci vuole molto. L'ho trovato. Sì, non è un horror alla fine l'ultimo, perché non hai paura, sei più impegnato se rimani lì come un bambino, appunto, a guardare. Però è divertente, cioè, ne metti uno così, uno come quello di Ti Ahianto, e boh, ma hai fatto un buon film. Sì, ma devo dire che hai più momenti in bratta mutande l'ultimo che il primo, perché il primo Ah, sì. è telefonato, sai già, cioè l'hai già visto in pratica, l'ultimo invece è così veloce, così basato sul colpo sul salto sulla sedia che beh, alla fine bara ma funziona. E il primo sì. No, palle, palle, palle. È divertente per quella storia lì che deve trombarsi la ragazza, ma per il resto. Sì, l'ultimo è bello anche perché appunto l'immediatezza è una cosa da bambini, sembra pensato da uno che ha guardato molti film di alieni e dice ma perché dobbiamo fare il polpettone? C'è una cosa veloce, ho poco tempo, sfruttiamo, c'è anche lo spazio per le, per i, insomma, le emozioni, quando il cane a un certo punto sembra non riemergere dall'acqua, cioè, c'è tutto in quei pochi minuti, è semplice ma è intelligente e io, boh, posso anche non spaventarmi e ridere un pochino di più o comunque accontentarmi di una cosa più... cafonazza, ma dai, boh, ci vuole così poco. Una volta poi gli horror episodi erano più o meno così, Sì, c'era quello che voleva fare la cosa più tesa, però era, si rideva anche, non è che l'horror non debba far ridere, se fa ridere in modo intelligente, ben venga, ce ne fossero. A me l'ultimo ha ricordato, cos'era, Attack the Block? Esatto, sì, sì, probabilmente c'è un'ispirazione. È quel... è quello lì, tutto di fretta, tutto ritmato, si ride perché i protagonisti sono dei ragazzini scurrili, che anche lì sono delle pesti molto più violente in quello inglese. Sì. Però c'è anche i momenti in cui la caga c'è, ormai niente fa più paura, quindi al diavolo, è una cosa del genere, fai il salto sulla sedia ma fallo divertente e ritmato, non darti troppe aria, non cercare di fare... chissà cosa, l'horror, salvo pochissimi casi, è morto, quindi lascia stare. Sì, poi soprattutto il POV è morto. Prima beh, quello... anche questo, ecco, abbandonare l'idea e fare gli episodi, magari come ABC's of Death, va bello. Vabbè, passiamo oltre. Faccio quello indiano. Ah, giusto, sì, vai. Velocemente perché, nonostante sia uno dei più belli del weekend, l'hai visto? Sì. Nonostante uno sia più belli del weekend, poche sale, non ho neanche voluto guardare quante sono, e quando la gente legge che è indiano, figurati se va a vederlo. Cazzi vostri, perché non è il classico film indiano, non è uno dei film di Bollywood dell'ultimo periodo, non si balla, non si canta, non c'è un budget stratosferico come le ultime cazzate action che stanno facendo, è un film di un regista che di indiano ha veramente poco, perché questo Batra, alla sua opera prima, ha girato il mondo prima di fare questo film, è venuto persino a Torino, ha lavorato col Torino Film Lab, ha studiato in America, ha fatto tantissime cose prima di fare questo, è giovane però... si è fatto un bello studio e ha sfornato un film indubbiamente debitore di tanti film occidentali e non, da Scrivimi per un post di Lubitsch a il remake C'è posta per te con Meg Ryan, a il corto Science, quello che piace a tutti, che è su YouTube, potete vederlo, a quello che prende molto da Science, uno degli ultimissimi Johnny To, Don't Go Breaking My Heart. Questo amore a distanza tra due personaggi che quasi non si vedono, tra messaggini, tra fogli, tra lettere. Insomma, l'idea non è originale, però è scritto bene, è un film con due ottimi attori, che non si vedono mai, anzi, si vedono, vabbè, non tenta di dire niente, non si vedono mai, e con una buona sceneggiatura dietro, moderno, soprattutto parla dell'India moderna, dove, come dice un personaggio, il merito non c'è più, anzi non si valuta più il merito, non si tiene più in conto il merito, è un paese sempre più sovraffollato, non c'è più spazio per niente, non c'è spazio vitale, una corsa frenetica al successo. E come dice invece l'altro personaggio, più che avere tanti soldi sarebbe meglio avere tanta più felicità pro capite. E quindi parla anche di questa moda sempre più frequente di abbandonare le grandi città per riversarsi nella campagna, dove trovare una vita più tranquilla. A me è piaciuto molto, probabilmente è uno dei migliori, anzi, sì, quasi il migliore del weekend. Non so che cacchio altro dire, bello, bello, mi piace anche l'idea da cui è nato tutto, questo articolo di Harvard, cioè Harvard è andato a studiare i, come si chiamano, i Dabbawalas, che sono i, quelli che portano il cibo nei, negli uffici dei, degli impiegati. Questi qui che portano ogni giorno anche 120.000 pasti a, a, ai dipendenti e non sbagliano mai. Tra il casino più generale, tra le corse, tra frenetici più al massimo, non sbagliano mai. E cosa succederebbe se per una volta si sbaglia, se un pasto arriva a un'altra persona? È un'idea bella, è scritto bene, due ottimi attori, uno lo conoscerete di sicuro perché l'avete visto in Spider-Man, tanto per dirne uno, ma anche in Vita di P, e fa sempre l'indiano, con quella faccia che gli vuoi far fare. Bellissima lei, Nimrat Kaur, che non è proprio un'attrice, però è molto brava. Niente, questo non perdetelo, è molto caruccio come film. Sì, piacevole, è un'idea, sì, appunto, derivativa, ma neanche tanto, perché alla fine sì, ci sono quegli esempi, ma non è un, non viene riproposta poi così spesso, e soprattutto qui c'è un minimo di voglia di adattarla alla cultura del posto che racconta e anche alla storia. È bello, è il cibo come, come messaggio, è divertente, poi bello anche il fatto della coincidenza, no? Proprio queste due persone si incontrano così, poteva capitare a chiunque, invece a queste due che in un certo senso hanno problemi non simili, ma che hanno bisogno di una soluzione simile. Bello, bello, è molto semplice, immediato anche questo, insomma, in tema con la puntata e con gli altri film che abbiamo, di cui abbiamo parlato all'inizio. È bello perché è un film indiano che, sì, per carità, poteva essere molto più duro nel raccontare certe cose, perché l'India è un postaccio per certe persone, specie per le donne. Comunque almeno ne parla, è già qualcosa. Il fatto che, insomma, la protagonista femminile abbia, viva una certa condizione, viene spiegato. Certo, lei è anche abbastanza libera e anche intraprendente, mentre invece nella realtà forse non sarebbe successo questo, o se fosse successo e il marito l'avrebbe beccata, probabilmente avrebbe fatto chissà cosa, però è tutto sommato, ha un minimo di coraggio di parlare, poi immagino anche se è difficile fare un film così lì, farlo uscire anche in India e parlare di certe cose, però vabbè, è lodevole l'impegno, alla fine almeno denuncia quell'aspetto, ecco, che c'è il matrimonio organizzato, non c'è per forza passione, non c'è per forza amore, e quindi insomma, il cibo diventa, viene sprecato. È bello anche questo, come il cibo diventa un indicatore sociale, no? Il marito nemmeno si accorge che lei è una brava cuoca, non si accorge nemmeno che gli è arrivato il pasto sbagliato, mentre invece l'uomo solo, rimasto vedovo, nota subito che c'è qualcosa che non va, no? E, bello, è un po' peccato che c'è questo solito doppiaggio italiano un po' così, specie, non mi ricordo come si chiama, il collega, quello che insomma deve rimpiazzare il protagonista, che deve essere Ah, sì. irritante, ma il doppiatore lo rende troppo irritante. Quello che fa anche doppia Andy di La vita secondo Jim, vabbè. Sì, è un po' anche sempre gli indiani li fanno doppiare, Sì. poi indebolisce un po', sì, niente di che comunque. Però È anche molto bello il suo personaggio, sì. l'orfano Sì, sembra leprevoso. più semplice all'inizio, invece c'è una sua. No, poi è bello come si avvicinano, anche lì non c'è il classico avvicinamento da film hollywoodiano, si sì, diventano amici, ma c'è sempre quel distacco che viene anche dall'età differente, ma anche dal fatto che sono in India e funzionano diversamente, cioè i rapporti sociali ruotano intorno a cose diverse. No, è piacevole, è un bel film. Sì, quello, insomma, è sempre quel trionfo dei buoni sentimenti, ma neanche troppo, non appesantisce quel tipo di discorso. E poi c'è quel bel finale che ho apprezzato. Sì, ormai è diventata un po' una pratica comune usare quel tipo di sviluppi. Non dico niente, ma insomma, chi l'ha visto capirà in cosa intendo. Però funziona, c'è un po' di coraggio che di solito nelle commedie, no, commedie no, comunque nei film romantici, drammatici non troviamo. Bello, internazionale, ma non sacrifica troppo dell'identità indiana, per questo forse mi è piaciuto. Un Poi, po' di compromesso, ma onesto, ecco. a proposito del finale, la scena della rivelazione di lui in bagno, quando Sì. si rende conto di una cosa che doveva essergli chiara fin dall'inizio, però insomma, poveraccio, anche lui potrà almeno svagarsi un attimo e avere dei sogni. Che poi è poco credibile, perché l'attore è giovane e bello, invece gli fanno fare la parte di quello che dovrebbe essere un uomo attempato, sì, cioè gli anni in più, però non si direbbe, ecco. Sì, però quel momento di profonda tristezza per lui è scritto molto bene, lì praticamente gli crolla addosso la verità. E sì, la crisi di mezza età proverbiale. E anche la scena del suicidio, che non riguarda nessuno dei due personaggi, quindi niente spoiler, che avviene molto prima nel film, quando lui è in taxi e sente quello che è successo e lei scrive la lettera in cui immagina come sia andata. Anche quello è molto bello, è molto cinema internazionale, ecco. Ecco, mi ha fatto tornare in mente che quello è forse l'unico momento, diciamo, di denuncia, ecco, non proprio, ma lo è, perché fa vedere che insomma India, una donna, può arrivare a un tal punto di alienazione che prende la figlia, sale sul tetto di un palazzo e si butta. Forse ecco, lì ho detto, ah ecco, beh, quindi una presa di posizione un po' più netta, cioè, c'è questa società che aliena soprattutto le donne e le relega a una condizione che magari per noi è un po' più difficile da capire, non per forza con la violenza, ma con delle imposizioni più invisibili. Quella è una bella scena. Poi dopo ci sono anche degli echi che tornano sul fatto di come si prepara una persona al suicidio. Sì, una bella scena. Tra l'altro, film premiato a Cannes, non mi ricordo con cosa, forse una roba del pubblico, che ha in comune con Martin Bommer, premiato al Sundance sempre per il pubblico, e PIFF sempre per il pubblico, e a Cannes c'era anche quello di Jarmusch. Chi? Jarmusch. Ah, o vuoi fare prima Béla-Tarr? Sì, visto che non l'hai visto, me lo dopo ne parliamo Va insieme. bene. Allora, sì, a Torino, in anteprima, sicuramente italiana, non so se internazionale, però lo potevate vedere anche su My Movies Live, come molti di questi film che abbiamo discusso, però si è riempito subito, stranamente, evidentemente Béla-Tarr, giustamente, ha più ammiratori di quello che pensavo. È un documentario di, oddio, non mi sono messo davanti la pagina e non mi ricordo il nome, Jean-Marc Lamour, tornato in mente, su un regista, insomma, uno dei registi più importanti della storia e uno dei più importanti registi viventi, Béla-Tarr, che nel 2011 ha iniziato molto prima, lo vediamo poi nel documentario, ma nel 2011 ha rilasciato, insomma, il suo ultimo film, Il Cavallo di Torino, che è... Se The Canyons è il film sul cinema che muore e si trasforma, ecco, Il Cavallo di Torino è il film sulla morte in generale, è pazzesco. Non vedetelo se siete giù di morale, perché è una cosa terrificante, forse è anche uno degli horror migliori che ho visto, non è un horror, ma fa paura. Insomma, è il suo ultimo film di una carriera lunga, 30 anni, non piena di film, perché ne ha fatti pochi fondamentali e sono più che sufficienti. Anche se chiaramente ne vorremmo di più, e si è ritirato senza neanche dare troppe spiegazioni. Ha detto: questo è il mio ultimo film, e si vede nel documentario che già era, insomma, deciso a monte. E Jean-Marc Lamour, che evidentemente, come molti cinefili, è un ammiratore, dice: beh, documentiamolo. Ora non so se abbia deciso di farlo sapendo che era l'ultimo. Comunque, ha voluto seguire il regista durante le riprese. E quindi ha realizzato a tutti gli effetti un backstage del film. Quindi ha seguito all'inizio la scelta delle location e poi ha seguito tutte le riprese, le singole scene, che in realtà poi sono poche scene, perché è un film che quello girato, Il Cavallo di Torino, è un film che è ambientato in un arco di 6 giorni, forse 7, c'è anche qualcosa che rimanda ai giorni della creazione del mondo. E niente, in realtà poi non racconta nient'altro che la routine di 6 giorni di questi due personaggi. Accenno un po' al film perché, insomma, è importantissimo, bellissimo e insomma, è il testamento di un grande regista, quindi è giusto dire qualcosa. È un, appunto, già detto, un film sulla morte del cinema, del proprio cinema, perché lui smette e smette in un modo unico. È una cosa terrificante, vabbè, vedetelo. Si apre con una citazione che riguarda Nietzsche, di questo filosofo, insomma, che conoscono tutti, che un giorno, in una mattina qualsiasi, esce di casa dal numero 6 di via Carlo Alberto a Torino, casualmente proprio a Torino, e vede un un uomo che frusta il suo cavallo e non resiste, si butta al collo di questo cavallo e piange, si butta giù e piange e non riesce a smettere più. Il padrone di casa, Nietzsche, lo prende, lo riporta nel suo appartamento, diciamo, e il filosofo non parla più, dice solamente: madre, sono impazzito, e vive per 10 anni nel più totale silenzio e nella follia, accudito appunto dalla madre e dalla sorella. E voi direte: che c'entra? Infatti, tra virgolette, non c'entra nulla, perché Tarra racconta la storia del cavallo. Cioè, da quel momento in poi il facchino ipotetico torna a casa, e il fantino, scusate, che cosa c'entra? Non è il fantino, vabbè. Il padrone del cavallo torna a casa dalla figlia e vive 6 giorni della sua routine. Non succede nulla, mangiano delle patate, guardano fuori dalla finestra e prendono l'acqua dal pozzo e poi tornano a dormire. Questo per 6 giorni, con una luce che cala sempre di più, un vento sempre più forte che li tormenta, e chi conosce Tar sa che il vento è importante. Nel documentario vediamo come realizzano questo vento, no? Uno se lo immagina come qualcosa di mistico e fa strano vedere che in realtà esce da dei ventilatori giganteschi, è come una magia che si rompe, però insomma, il cinema è questo. Insomma, Jean-Marc Lamour documenta tutte le riprese, fa parlare un po' anche Bellatar, che ne approfitta per spiegare forse troppo sbrigativamente che insomma ha deciso di smettere, perché forse quello che fa in un certo senso non significa più nulla, quello che ha fatto non ha lasciato forse il segno che lui sperava, non è ben chiaro. C'è una scena che riassume un po' tutto, con i caseggiati dove era ambientato Satan Tango, che sono abbandonati, lui dice: vedete, non rimane più nulla, la gloria è transitoria, una citazione tra l'altro, e quindi insomma è lasciato tutto in sospeso, e il film, anzi il documentario fallisce proprio qui nel raccontare un regista. Il titolo è Bellatar, anzi Tar Bela, I used to be a filmmaker, quindi ti aspetti un videotestamento, diciamo, un testamento artistico, e invece no, è un backstage che poteva stare sul Blu-ray, purtroppo sul mio Blu-ray non ce n'è uno, ma mi sarebbe piaciuto, e non lascia nient'altro, è un prodotto un po' sterile di un appassionato che però non è che riesca a trasmetterla sta passione. Cioè, io che amo il regista, vedo come lavora, dico: ah, che bello. Però è il classico documentario che non è ben fatto, semplicemente racconta qualcosa che interessa a qualcuno e chi è interessato vede il lato positivo. Chi invece magari voleva approfittare per conoscere il regista, per avere uno sguardo più approfondito sulla filosofia che muove il suo cinema, non c'è, si rivolga altrove, perché non diciamo che è un documentario come tanti, e appunto è poco più di un backstage. Ed è un vero peccato, insomma, un'occasione unica, perché se è vero che si è ritirato, se rimarrà in ritiro, cioè, quando ricapiterà di vederlo girare un film, poi che film? E invece no, sì, c'è qualche bel momento, vedere gli attori, il cast, che è una famiglia, perché lui lavora da 30 anni più o meno con le stesse persone, anche con la moglie, quindi è divertente vedere la troupe, il set, il cast tecnico e il cast di attori che lavorano insieme e si conoscono, però è deludente come prodotto, è davvero un'occasione mancata e dispiace, perché è un regista importante e meritava un trattamento migliore, lui e i suoi film, invece vabbè, purtroppo niente. Quindi passiamo direttamente all'altro, sempre a Torino, anche questo fuori concorso, in anteprima, non so quando uscirà in Italia, non so se c'è una data, comunque l'ultimo film di Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. Ogni volta viene da dire il titolo del film di Refne, invece non so perché. Niente, è una storia di vampiri, lo sapranno già tutti, perché a Cannes se ne è parlato molto, e perché uno dei due vampiri è Tom Hiddleston, il Loki di Thor, che è un po' come Pattinson per Cronenberg, è una scelta strana. Sorprende, però vabbè, non rovina il film, ecco. Non è neanche il miglior attore, non fa niente di trascendentale, è una prova dignitosa, però Tilda Swinton gli ruba la scena, ma proprio di brutto. Comunque, la storia di Adam e Eve, due vampiri, sono marito e moglie da secoli e si risposano puntualmente. Lui vive a Detroit, non so perché, ha scelto questo posto terribile, segregato in casa, compone musica, colleziona strumenti, si deprime tantissimo, poi scopriamo perché. Invece lei è l'opposto, lui è moro, capelli scuri, dark, gotico, come volete chiamarlo, lei invece chiara di capelli, chiara di pelle, vestiti luminosissimi, e vive a Tangeri, quindi l'opposto del mondo in cui vive lui. Però, insomma, lui appunto è depresso, la chiama e si ricongiungono, come succede ogni un tot di anni. Poi arriva un ospite inatteso, interpretato da Mia Wasikowska, che è bellissima come al solito, ma qui è particolarmente simpatica. E quindi diciamo che vediamo, tra virgolette, la routine di questi due vampiri, che sono, diciamo, l'opposto dello stereotipo cinematografico e letterario. Intanto sono figure tutt'altro che decadenti, anzi, sono simpaticissimi, anche se hanno una flemma particolare, hanno un modo di vivere, la vita, la natura, le cose che può lasciare, insomma, straniti, perché si meravigliano di tutto, si sorprendono di tutto, dell'animale che attraversa la strada, della puzzola, della pianta che cresce. Sono delle creature quasi aliene. E quindi, appunto, tutt'altro che decadenti. Si amano tantissimo, non uccidono, ma comprano il sangue da un dottore corrotto. Quindi, diciamo, anche qui si vede già che gli umani sono figure meno positive. E appunto, la decadenza sono gli uomini, cioè sono gli esseri umani che Adam chiama zombie, che hanno portato il mondo sull'orlo del baratro, con l'inquinamento, con la violenza, con le persecuzioni religiose degli scienziati. Insomma, hanno rovinato tutto e sono appunto dei morti viventi, mentre invece i morti viventi vampiri sono gli unici amanti rimasti in vita, come dice il titolo. È una cosa semplice, ma non so, è un'idea bellissima, e Jarmusch ci si diverte un sacco, crea dei personaggi fantastici, che sono belli, forse facili da amare proprio perché lui li ama più di tutti, ed è veramente una gioia vederli bere il sangue, fare le loro cose. Ecco, il bere il sangue, che negli altri film era un atto di violenza, e qui diventa un rito, loro lo bevono insieme, si crea una sorta di legame. Anche se sono lontani mille miglia, si collegano in quest'estasi, che poi è bellissima, che viene ripresa con la telecamera probabilmente attaccata al busto dell'attore, che va indietro con la testa, quindi si porta dietro la macchina da presa, creando questo effetto strano, con un sorriso insanguinato bellissimo. Davvero è un momento emozionante nel film, quando si nutrono. E niente, film su queste creature che, pur essendo morte, amano la vita profondamente, amano l'arte soprattutto, la preservano, cercano di salvarla, collezionando strumenti, libri, cose antiche, usano gli pseudonimi letterari. Sembra, insomma, degli hipster, degli intellettuali che si la tirano un po'. In realtà è un modo di preservare, di riscoprire la cultura, la bellezza, anche questa cosa di dire tutto quello che gli passa in testa, di vedere un fungo e dire: Amanita muscaria, ecco, moffetta nordamericana. È un modo di riscoprire le cose, di ridargli un nome, c'è, cioè, qualcosa di biblico in mezzo, come Adamo ed Eva, non a caso il nome è quello, che nella Genesi danno un nome alle cose, no? Adamo dà il nome, quindi ha un controllo sul mondo, e loro sono i nuovi Adamo ed Eva, e paradossalmente il paradiso terrestre è Detroit, cioè il cesso d'America, tra virgolette, e diventa un luogo bellissimo. Loro lo rendono bellissimo, e dicono addirittura potrebbe avere una rinascita come città, perché c'è l'acqua, e un giorno, quando l'acqua finirà, questi posti saranno importanti. Sono dei vampiri ambientalisti, Auguri. artisti innamorati. Sono delle creature bellissime, e boh, credo sia impossibile non innamorarsene, anche perché sono interpretati molto bene, ripeto, soprattutto Tilda Swinton, che intanto ha un viso che sembra quello di una vampira, è pazzesco. La conoscete, immaginatela, o cercate qualche foto e capirete cosa voglio dire. È un viso molto particolare. E poi è bellissimo, perché l'hanno truccata ancora più pallida, e l'hanno fatto questa capigliatura leonina, e davvero sembra una figura sacra quasi. All'inizio è bellissimo, la troviamo sdraiata per terra con un kimono, e davvero sembra un'apparizione. E poi l'inizio è davvero forse uno dei momenti più belli del film, è uno degli inizi più belli, con loro due che bevono il loro primo goccio di sangue, anche se noi non li vediamo, e la macchina da presa comincia a girare. Quindi c'è un movimento rotatorio, lei, Tilda Swinton, comincia a parlare ruotando su se stessa, e quindi si crea una specie di legame tra tutti questi vampiri, che nello stesso momento fanno la stessa cosa. Quindi c'è proprio un tutto che si si regge su se stesso, su un senso di comunione di questi esseri che poi appunto paradossalmente di nuovo sono morti ma sono più vivi di tutti gli altri, si sentono a distanza, si amano profondamente e boh, Jarmusch fa forse il suo film più raffinato, tecnicamente più elegante, molto pulito. Superficialmente si potrebbe anche dire non sembra un suo film, però intanto beh, bisognerebbe aver visto quello prima, oddio, non mi viene il titolo, The Limits of Control, che anche quello è molto elegante, quindi era un percorso che ha già intrapreso, ma poi ha un senso, cioè un film bello, superficialmente bello, e non solo, in un'epoca in cui la bellezza sembra morta, quindi c'è un perché, va controcorrente in tutto, cioè usa i vampiri al contrario, in un'epoca in cui i vampiri sono portati al cinema continuamente nel modo più banale e vuoto possibile, lui li riporta al cinema e gli ridà vita e poi ci ricorda che in un certo senso lui ha sempre raccontato storie di vampiri, cioè dal primo film Permanent Vacation a Deadman a Down by Law, cioè, tutti i personaggi che lui ha raccontato sono in un certo senso degli emarginati, delle creature notturne, perché poi i suoi film sono sempre notturni. Insomma, ha sempre raccontato queste entità che non trovano posto nella società, e qui diciamo che raggiunge l'apice, diciamo, potrebbe essere il suo film più personale, racconta i suoi personaggi per eccellenza, e fa un film bellissimo, ennesimo bellissimo film di Cannes, come Venere in pelliccia per Polanski, questo è probabilmente uno dei più bei film di Jarmusch, non dico il più bello perché non so, potrebbe anche essere, io ho un legame affettivo con Deadman, ma potrei rivederlo in futuro, è veramente un film che ho adorato, è divertentissimo, 2 ore a ritmo lento, ma davvero non vorresti mollarli più questi vampiri. Poi c'è un finale che mi ha fatto davvero sorridere, perché vabbè, non vi dico, però è il più giusto possibile, e, boh, vedetelo, adesso non si può, chissà quando, ma vedetelo. È come per Wes Anderson, ognuno ha un legame speciale con un film di Jarmusch. Tu Deadman, io invece ecco, che se non ricordo speciale, manco mi ricordo. Ghost Dog, credo. Sì, Ghost Dog. Quindi sì, questo bellissimo, però Ghost Dog rimane nel cuore e si batte il pugno al petto. Però sì, forse anche senza aver visto l'ultimo, già da Madonna, mi ricordassi uno di titolo in questo momento, Flowers, Broken Flowers. Broken Flowers era già iniziata una certa maturità. Il colore, sì, beh, no, il colore c'era già prima, però sì, ma comunque maturità stilistica e registica. Era uscito un po' dall'amatoriale grezzo ed era venuto fuori un regista maturo e che sapeva benissimo come si fa un film, e dimostrando anche che appunto se ho voglia lo faccio con tutti i crismi, se non mi va lo faccio come mi pare, insomma non sono per forza uno zozzone, non sono rimasto quello di Down by Law di degli altri film. Sì, insomma, il vampiro ha rotto le palle e ognuno ci ha cacato e pisciato sopra, hanno rovinato una figura che prima degli ultimi 20 anni era una bellissima figura, e adesso chi se non Jarmusch poteva parlarne e chiudere, diciamo mettere una tomba sopra il vampiro. Come dici te, appunto, tutti i personaggi di Jarmusch e Jarmusch stesso sono dei vampiri. Il vampiro nasce prima di Jarmusch, ma dopo diventa un suo personaggio, cioè anche se Jarmusch è arrivato dopo, l'ha inventato quasi lui, il vampiro cinematografico. E lui è l'unico che si può permettere anche un'ironia del genere, perché alla fine sono dei vampiri, sì, molto simili al classico vampiro cinematografico, sono tutti i cliché, cioè non possono uscire alla luce del sole, sono velocissimi, sono belle le scene in cui sono dei razzi con le mani e come si chiama l'amico loro rimane scioccato ogni volta, sì. Ma sei un maestro. Sì. Quindi sì, rispetta la figura, ma poi la prende anche molto in giro, sono divertenti come gioca con il personaggio di William Hart, che ha scritto grandissime opere, è lui in realtà l'autore di tutti i testi di Shakespeare. È bello prendersi gioco così della storia e del ruolo del vampiro. E sì, è un gradevolissimo film. I due attori principali, non solo lei, ma anche lui mi è piaciuto molto. E non so se l'ha fatto apposta, ma sono veramente uguali. Come facce, sì. Hanno dei tratti somatici che sono identici. Lei è molto mascolina, lui con quei capelli e in certe pose è molto femminile. Più che amanti, sembrano quasi dei fratello e sorella. Comunque sì, sembrano gli Adamo ed Eva originali, i due modelli iniziali del genere umano. Sì, comunque è molto bello. Poi dove puoi ambientare un film con dei vampiri contemporanei se non a Detroit, la città più orrenda del mondo, e anche Tangeri. Dove se non in questi due posti? Poteva cadere nel banale, farla Vienna o comunque nella Mitteleuropa classica da vampiro, o a Londra, dove va nel romanzo, o in una New York scura, o a Brooklyn, la sua Brooklyn, o nella provincia americana, perché no? Invece no, Detroit, ed è la cosa migliore. Beh, c'è anche un po' di ironia quando devono fare lo scalo in aereo, dice a Londra, no, Londra no! C'è un rigetto, un po' perché ci sono stati troppo, forse. Sì, no, scusa, stavo pensando a Parigi, lei all'inizio che scala a Parigi, sì, è Londra. Invece Madrid, sì, Madrid va bene. È bello poi Detroit perché, vabbè, non è per quello che lo gira lì, però stranamente fanno tutto il giro in macchina, vanno davanti alla casa di Jack Black, diciamo, ah, vedi dove è nato Jack Black? Cioè, è strano, è un momento bizzarro nel film, un omaggio a uno che ha recitato nei suoi film, insomma. È un amico, di Sì, sicuro. e anche Tesla torna, no? Che era, lo raccontava proprio Jack Black in Coffee and Cigarettes, qui torna come ossessione. E poi ha ragione, è un grande scienziato che è stato ucciso socialmente. Si vede che se l'è legato al dito. Sì, insomma, Adam è lui poi, appassionato di musica, appassionato di Tesla. Le musiche che suona, non l'ho detto prima, sono della band di Jarmusch. Quindi è tutta roba composta da Jarmusch e eseguita da lui e la sua band. Ma poi i giri in macchina, appunto, la notte a Detroit, bellissimi. Mi hanno ricordato alcuni pezzi di i Blues Brothers, quando quella zona lì, però era Chicago, vabbè, però quelle città lì del nord degli Stati Uniti erano ancora vive. Qui non c'è più niente, sono quei paesaggi con le ciminiere fumanti, lontane, il parcheggio dove vanno a scaricare qualcuno. Coi coyote, tra l'altro è strano, i coyote in una zona così fredda, Detroit, l'inverno muore anche un cane più normale, figuriamoci un coyote che è abituato ai deserti, però vabbè. E non voglio contraddire Tilda Swinton, è un manuale quella. bellissima, Detroit, quasi viene voglia di andarla a vedere e di girarla di notte, e dormire di giorno, per non vederla alla luce del sole. Sì, forse è il modo migliore per vederla, anche se non sei un vampiro, forse potresti subire qualche aggressione. E anche questo mi piacerebbe rivederlo, per un giudizio definitivo, e come sto leggendo in giro non sono l'unico, molti lo stanno maturando, fermentando, insomma, è bello al primo colpo, ma necessita uno studio maggiore, pensarci sopra un po', poi per cogliere anche queste cose, tipo lo scalo a Londra, cioè, è bellissimo, te ne accorgi all'inizio, ti accorgi quella di Fausto, vabbè, poi Sì, è vero, in citazione. sala ridevano per ogni scoreggia, però Sì, è un vabbè, altro sono discorso, pubblico. pubblico da Vabbè. festival, sì. Sì. Sì, beh, è divertente, un film che nonostante tutto ha dei momenti ironici, però sì, insomma, sbracciarsi dalle risate ogni volta. Beh, insomma, paradossalmente è la cosa più lontana dal Jarmusch che abbiamo amato, ma è pieno del Jarmusch che amiamo. È vero, in alcune cose non sembra un suo film, ma quando vedi i personaggi, le musiche, e i dialoghi, sempre sprezzanti di vita, dice, vabbè, questo è Jarmusch, è impossibile non accorgersene. È straniante anche per questo, è un Jarmusch che sorprende. E sì, quanto siamo perché c'è la sua lentezza, però boh, c'è anche molto movimento di camera, cosa che di solito non vediamo nei suoi film, anzi, statico al massimo, qui invece gira, muove. È molto notturno, appunto, cioè, come tutti i suoi film, ma qui sembra di più, sembra quasi di essere sotto un effetto di qualche droga, perché è tutto molto disteso, loro che parlano lentamente, che si muovono lentamente, gli occhiali da sole, la parlata, è tutto, non so, sembra, l'ho detto nella recensione, sembra che lei, quando arriva, calma lui, ha un effetto analgesico su di lui, ma anche sul film, cioè sembra quasi che quel modo di fare da bambina, da pazza un po', abbia un effetto, boh, calmante, però particolare. C'è un Jarmusch che, boh, sperimenta anche un po'. Sì, è bello che al 12°, 13° film, non lo so, ancora sì, riesce a sorprendere il suo spettatore più solidale, più fanatico, più affezionato, sì. Ha 60 anni poi, quindi è bello che ancora riesca a sorprendere così. Non si direbbe, perché vedi le foto, ma è un omone. 60 anni, un po' di film sulle spalle, come, non voglio dire banalità, ma era naturale, come Polanski. Venere in pelliccia, a 80 anni, un grandissimo film, uno dei suoi più belli. Jarmusch, a 60, e cacchio, ma perché dobbiamo affidarci ancora ai vecchi? Vabbè, in America e nel resto del mondo ci sono i giovani che fanno cinema, forse per questo non dà fastidio, perché un grande vecchio, tra virgolette, fa un bel film, ma poi ci sono anche un sacco di giovani, e qui invece no, abbiamo le mummie, ma manco più quelle. Sì, abbiamo parlato di quello di Martin Bonner o Noah Baumbach, sono comunque giovani e fanno film piccoli ma molto belli. In Italia i film piccoli non si fanno neanche. Non c'è ricambio da sempre. Vabbè, beh, a proposito, opere prime, giovani, beh, giovani, anche lui c'ha belle 40 anni e passa. L'ultimo film del Torino Film Festival di cui parliamo, e l'unico in concorso, e l'unico premiato, chiaramente, è La mafia uccide solo di estate di Piff al secolo, Pier Francesco Di Liberto. Cosa strana, su IMDb non esiste questo film, e soprattutto non esiste Pier Francesco Di Liberto. È strano davvero, perché un minimo prima aggiornano sempre, anche i film Ma soprattutto più adesso che ha vinto. sconosciuti. Appunto, non lo so chi se ne occupa, cioè se può farlo chiunque. Penso di sì, però dovresti avere IMDb Pro, mi sembra. Ah, ok. È davvero strano, io a volte cerco, dico, ma figurati se c'è, e trovo della roba assurda. Magari non c'è il voto, nessuno l'ha votato, però c'è, boh. Però la voce Pif esiste con una sola puntata del testimone. Ah no, aspetta, Pier Francesco Di Liberto esiste, ma Sì, c'è solo anche il come... ruolo che ha fatto. Sì, in un film di Paganelli, basta. Bah, vabbè. Comunque, prima del pubblico, film che è uscito nelle sale già da giovedì e che in questi 4 giorni, 5 con oggi, ha già incassato 756.000 euro, che purtroppo c'è ancora Zalone che va per i 50 milioni, c'è Thor, c'è la ragazza del fuoco lì, che pia fuoco di Hunger Games, c'è quella merda della fuga dei cervelli, lui si classifica al quinto posto però. Non è niente male, considerando che ha incassato più del doppio di Don John, non è male, insomma, tra i piccoli è riuscito a scavarsi la sua nicchia. Appunto, opera prima di Pif, che noi amiamo, siamo cresciuti con lui, però. Beh sì, eravamo già grandi, ma Sì, l'abbiamo visto nascere come fenomeno. sì, è lui che è cresciuto con noi. Sì. Inoltre siamo tra i pochi che ci rendiamo conto che lui non è solo quello delle Iene, ma anzi è più che altro quello del testimone. Vedevo anche Alò, diceva solo quello del testimone. Perché non lo Cioè. conoscono, Beh, chiaramente. però boh, mi sembra una cosa abbastanza nota e vista mentre la guardavo, invece niente. Ma sto notando varie recensioni che trovano dei difetti del film proprio perché non lo conoscono. Non so, la voce fuori campo. Sì, ho letto anch'io, sì. È una cosa chiara, tipica di Pif. A me non ha dato fastidio, ovvio, io sono abituatissimo alla sua voce fuori campo, soprattutto al timbro vocale, che non mi dà fastidio. Alcuni hanno detto, Madonna, non si può sentire, anche proprio come timbro vocale. Vabbè, sì, non ha una voce da tenore, vabbè. Sì, però appunto io non riesco a trovarlo come difetto. Vabbè. Film che non ha niente a che fare con il libro di Alfano, La mafia uccide d'estate, stranamente, sono molto simili, ma sarebbe stato molto strano. Sì, soprattutto lui che porta al cinema un film di Alfano, vabbè. Sì. È un film che, a proposito di governi Berlusconi, parla di un tema che in Italia è ancora tabù, nonostante anche questo, ho letto nei forum, tema stra-abusato. Scusate, ma quanti film sulla mafia ci sono ultimamente? Datemene 10, io non li trovo. Ultimamente per fortuna meno, c'è stato il periodo dei 100 passi, quelle cose lì, sì, più televisive. Non puoi dirmi stra-abusato un tema della mafia in questo modo, ma in no. TV però in altri modi, ma al cinema... Ecco, no. A proposito. C'è Gomorra, che non è la mafia, va bene, però dico come... Ma non è... Da qualche anno a questa parte non mi sembra sia uscito nulla. Un film ogni 3 anni non mi sembra strabusato, ecco quello volevo dire. Più che altro, a proposito di governo Berlusconi, di gente di Berlusconi, Mediaset ne fa tanti sulla mafia, ma sempre dalla parte sbagliata, perché il boss dei boss, il capo dei capi, l'onore e l'orgoglio, quelle stronzate lì, non fanno altro che glorificare la mafia. Cioè, il governo che la combatte poi in televisione, in prima TV, in prima serata manda questa roba, bah, vabbè. Comunque, fin di Pif, che col suo stile, da, diciamo un po' documentaristico, didattico, racconta la storia di un bambino, Arturo Giammarresi, e della sua storia d'amore con una sua compagna, Flora, non mi ricordo il cognome, fa niente, da quando sono bambini fino a quando diventano adulti e si rincontrano dopo anni. Fin qui niente di che, è una storia normalissima, se non che è ambientata a Palermo negli anni 70, anni 80, nel periodo in cui Totoina ha preso il potere, a furia di massacri, sparatorie, bombe, e il periodo in cui ci fu il tentativo più grande da parte del governo italiano, grande tra virgolette, di combattere la mafia. Quindi ogni tentativo di Arturo di conquistare Flora, in qualche modo di farsi vedere da lei, veniva sempre sabotato da qualche attentato, da qualche morto. Quindi si divide in due parti, la prima appunto con Arturo piccolo e il periodo più, no, non proprio il più caldo, ma comunque un periodo forte degli attentati della mafia, un secondo in cui Arturo e Flora sono grandi e si rincontrano. La prima parte, la migliore, vediamo la mafia attraverso gli occhi innocenti e ingenui di un bambino, ingenui fino a un certo punto, perché come tutti a Palermo sapevano tutto, le cose, la mafia neanche si nascondeva in quel periodo, le cose le faceva davanti a tutti e bastava poco per voler fermarla, non fermarla ma volerla fermare. E insomma, tramite alcune scene molto ironiche divertenti, racconta eventi importanti della storia italiana e della Sicilia, dall'assassinio di Boris Giuliano mentre si mangiava le iris, le iris mi sono rimaste qua, devo mangiarle, queste specie di krafen con dentro la ricotta e le scagliette di cioccolato con sopra il... Altra cosa del programma, e chi non lo conosce, esatto, non avrà capito, la passione per i dolci. Infatti se vi ricorderete la puntata in cui parlava delle granite che si mangiano solo a Palermo, questa è una cosa che dice sempre Pif, i dolci siciliani non li puoi mangiare da nessuna parte se non in Sicilia, non li puoi rifare. E poi Arturo che va a incontrare dalla chiesa o insomma altri personaggi di quell'epoca. Ecco, Ma che cazzo stavo dicendo? C'ho la iris adesso in testa. Il calo di zuccheri. E anche il cannolo mi è venuto in mente. Che non, nel film non si vedono mai, perché l'ha detto anche Pifo, volevo fare dello stereotipo siciliano, la coppola, il cannolo, però il cannolo. E vabbè, tramite queste situazioni divertenti, una su tutte, appunto, Arturo che va a intervistare dalla chiesa, entra nel suo palazzo con assoluta tranquillità, la scena è molto divertente perché questo bambino che gira tra le stanze vuote, incontra dei carabinieri senza cappello, due in tutto, in 100 stanze, che sono lì stravaccati e dovrebbero proteggere una delle cariche più importanti, uno dei personaggi più importanti per la lotta alla mafia, e Arturo arriva addirittura all'ufficio della chiesa che ovviamente non se la prende, anzi gli offre una caramella ed è contento di rispondere alle sue domande, purché non siano difficili. All'inizio appunto viene da ridere per questa scenetta, però poi lo spettatore si rende conto di qual era la situazione a quei tempi, di come il governo aveva mandato proprio al massacro certe persone, certi uomini così importanti. E il film gioca sempre su questo, te lo fa vedere in un modo divertente, in un modo infantile, appunto, sempre attraverso gli occhi di Arturo, però non le manda a dire, insomma, molto spesso fa delle accuse serie, soprattutto verso Andreotti, che, come avevo detto all'intrinseco mentre tornavamo in macchina, mi dispiace che sia morto prima che questo film sia uscito, non che avrebbe detto niente, non che avrebbe fatto chissà cosa e non che adesso qualcuno si stia lamentando, però dispiace che il film esca quando il morto non può rispondere, però vabbè, insomma, sempre in maniera un po' velata, ma non le manda a dire. Andreotti che non viene, che non va al funerale dalla chiesa, o era quello di già di Falcone, non mi ricordo. No, dalla chiesa. Dalla chiesa. Non va, ah sì, è vero, perché era ancora bambino e non l'aveva visto. Non va perché cioè lui preferisce i battesimi ai funerali. Andreotti l'amico degli amici. Andreotti che parla del problema mafioso in regioni come la Calabria e la Campania, e stranamente si dimentica della Sicilia. Ecco, senza fare troppa polemica, sempre tenendosi su un modo leggero, fa delle piazzali dei bei cazzotti, anche nella seconda parte, un pezzo con Salvo Lima, su cui ci sono ancora dei dubbi, molti meno che su Andreotti, ma c'erano dei dubbi sui suoi legami con Cosa Nostra. Seconda parte invece che, essendo una commedia romantica, deve per forza abbassarsi a certi schemi, deve per forza far vedere lui che è un ragazzo imbranato, che sbava dietro alla bella Flora, interpretata dalla Capotondi, piuttosto tollerabile, non arrivo a dire brava, ma insomma, tollerabile. E quindi largo spazio a battutine e battutacce, forse più, anche questa volta devo dire, tollerabili nella prima parte, perché dette da dei bambini, nella seconda danno un po' più fastidio, però tutta questa seconda parte funziona meno, a mio modo di vedere viene dimenticata e viene perdonata da un doppio finale, il primo che quasi si vede nel trailer, e questo non è un granché, in cui finalmente i due personaggi, soprattutto il personaggio di Flora, aprono gli occhi davanti a qual è la situazione una situazione in Sicilia, la mafia e lo Stato, e il secondo finale, quello molto alla Testimone, in cui, beh, non dico cosa si vede, però mi ha commosso parecchio, sono uscito, sì, con gli occhi lucidi. Quindi è un film che nella prima parte funziona benissimo, come hanno detto tutti, è molto divertente, il personaggio di Arturo è simpatico, è un perfetto testimone di quell'epoca, il bambino è molto, di, molto bravo, ha una bella parlata. Nella seconda invece il film cala un pochino, ma appunto si salva nel finale. È un esordio, secondo me, convincente, ha tutte le pecche dell'opera prima, quindi un po' di un ritmo che cala in alcune parti, un po' si addormenta, ha un finale un po' troppo frettoloso, anche se molto bello, insomma, taglia un po' troppo le cose nel finale, ha i suoi difetti, ma voglio così tanto bene a Piff e sono contento che lui, che ha sempre sognato di fare il regista, d'altronde ho scoperto anche recentemente che suo padre era regista, insomma, non posso che essere contento per lui. È un film che qualcuno definirebbe doveroso, uno di quei film che bisogna fare ogni tanto, non lo so, non penso che Piff abbia avuto questa, come dire, questo, non voleva fare il film doveroso, lui voleva raccontare una storia molto semplice e molto personale, molto sentita. L'ha fatta con il suo stile, sono contento per lui. Credo che tu sia meno contento, sentiamo le tue e il pubblico deciderà. Pronto? Niente, avevo tolto il microfono per non soffiare nel... Ma tanto non dai fastidio. No, di solito si sente, allora. Poi mi dimentico di toglierlo e di rimetterlo. Premetto subito che è stata una delusione, perché anch'io comunque conoscevo lui, mi piaceva il programma, l'ho seguito tutto dall'inizio. Una cosa mia, non ha che nulla a che vedere col giudizio, nel senso, avrei preferito un documentario, uno perché in Italia se ne fanno pochi, anche se ultimamente cambia un po' la tendenza, e due perché... Poi col senno di poi preferisco come tratta le cose da documentarista, anche se non è un documentarista. Comunque il trailer già mi aveva un po' insospettito, nel senso che sapendo che faceva un film mi sarei aspettato intanto appunto qualcosa di documentaristico, poi di diverso, ecco, di meno... No, non mi aspettavo questo tipo di film, ecco. Deludente perché, sì, diciamo che condivido in parte il giudizio insomma, i giudizi che ho letto in giro sul fatto che la prima parte è quella più riuscita. La differenza è che io l'ho trovata non così riuscita come altri, ecco. Mi è piaciuta, è quella che funziona meglio sicuramente, perché poi è quella più da un lato spensierata e poi più intelligente, perché nella seconda c'è il crollo, poi spiego perché secondo me, però lì davvero c'è la creatività che uno vorrebbe vedere in un prodotto del genere. Non l'ho trovata così eccezionale, perché comunque c'è un'ironia che funziona in modo altalenante, ecco, non ho trovato costante, anche molto episodico come film, cioè, e per forza di cose la commedia quasi sempre ti costringe allo schema barzellette, però un po' troppo, e a volte la battuta è un po' così, da commediaccia italiana, quella al cimitero della Svizzera, ecco lì, non so, non mi convince quel tipo di ironia. Mi sembra troppo derivativa da una commedia, un tipo di commedia che non mi piace. Poi ci sono invece degli ottimi momenti, che sono, appunto, ripeto, tutto nella prima parte, la parte di dalla chiesa, per esempio, forse è il momento più alto del film, perché lì usa davvero bene il gioco del punto di vista del bambino, no? L'occhio ingenuo che non capisce, però nota, e, insomma, l'idea del far notare che questa gente non era scortata è una cosa che ogni tanto si dice, ma neanche tanto. Si dice soprattutto di Falcone e Borsellino, no? Perché quello arriva dopo e quindi dici come mai si sapeva, non sono stati scortati adeguatamente, e qui in questo caso è bello, si sono scortati di scortare, e qui invece c'è questa bellissima scena, lui che esce e sta scrivendo il tema nella sua mente, dice è strano, c'erano solo due carabinieri, non avevano neanche il cappello, è stupido come osservazione perché la fa un bambino, però insomma rivela la verità, come tutti i bambini nei film di questo tipo. E quello è davvero un momento azzeccatissimo, bello, anche emozionante, perché c'è l'incontro e perché si conclude in quel modo, no? Lo sguardo amaro sul perché non sono stati protetti come dovevano, visto che poi è un film che parla di questo fondamentalmente, non è tanto sulla mafia, ma su i morti della mafia, ed è bello anche che sia andato indietro, sia dalla Chiesa, ma anche ancora prima, perché di solito si... Non che sia sbagliato, ma si parla Falcone, Borsellino, Borsellino, Falcone, e ci si dimentica. dalla Chiesa lo hanno ricordato un po' recentemente, anche il divo di, come si chiama, di quella chiavica di Sorrentino, ha un po' riacceso quel ricordo, perché è un personaggio di cui si parla un po' meno rispetto ad altri. E qui vengono fuori anche i giudici che non si ricordano mai, e giustamente un palermitano, un siciliano vorrebbe magari vedere ricordati. E poi il film è questo, è un monumento a quelle figure, il finale insomma dice tutto. A me non è piaciuto, appunto, perché intanto, beh, premesso che la prima parte non è bilanciatissima, secondo me, la seconda io non riesco a perdonarla, è quella che mi ha fatto cascare le braccia, è quella più di compromesso, perché finché la storia d'amore riguardava i bambini era solo un... sembrava qualcosa di marginale, nella seconda parte diventa più centrale ed è raccontata in modo superficiale, sbrigativo e anche abbastanza affettato, perché poi è... si conclude in poche inquadrature in modo piuttosto ingenuo. Questa scena, beh, non lo possiamo anche dire, come hai detto tu, è in tutti i trailer, c'è un bacio, e non mi riguarda, cioè non mi riguarda, non mi interessa quello che diceva Lo, non è giusto mettere un bacio in quella particolare situazione, che non dico, non, diciamo che non è una cosa che mi ha infastidito, non è quello, è che arriva da una scena all'altra, cioè ci deve essere l'evoluzione del personaggio, sembra quasi che, non so, si siano ritrovati a un certo punto a dover chiudere in fretta e furia, questa è la sensazione, probabilmente lo sceneggiatore, la colpa magari è soprattutto dello sceneggiatore, anche perché i problemi sono principalmente di sceneggiatura, il resto non mi sento di condannare nulla, c'è quel sì, quell'aspetto da opera prima, ma c'è di peggio, sono più che altro problemi di sceneggiatura, io adesso non so, non mi sono documentato, se l'ha scritta in parte lui, soprattutto lui... Non so tu se si sei informato meglio. Continua a parlare. Perché magari, insomma, lui, appunto, essendo... Mi sembra che l'abbia scritta, però... appunto, quindi anche come opera prima dal punto di vista registico è l'opera di uno che comunque ha studiato una certa parte della regia e ha un'esperienza. Quella di sceneggiatura è diversa, soprattutto se non hai mai fatto qualcosa del genere, perché probabilmente le puntate del testimone le scrive lui, ma... è diverso, quindi può darsi che se è opera sua sia insomma, un limite dell'esordiente. E niente, quindi l'ho trovata terribile la seconda parte, davvero manda un po' in vacca tutto, ed è un tutto che io non mi sentivo di promuovere appieno, quindi forse questa è la differenza, cioè una prima parte che in generale promuovo ma non con lo stesso entusiasmo, una seconda che a mio avviso fa più danno di quanto credi tu magari. Scusa, aspetta, sì. Abbiamo capito il problema, sceneggiatore a parte Pif e Michele Astori è un certo Marco Martani, chi è? Sceneggiatore di Com'è bello far l'amore, Pazze di me, Femmine contro maschi, Maschi contro femmine, ecco. Oggi sposi, ex e tanti ma tanti Natale A, ecco, purtroppo. Quindi insomma si capisce l'influenza negativa, sì. Purtroppo un esordiente deve affidarsi a chi gli viene affidato, insomma. Sì, avrà fatto la seconda parte lui, visto che fa solo robe romantiche di sì, sembrerebbe, esatto. Ma poi a parte l'aspetto romantico, anche il personaggio di, come si chiama il nome francese? È Jean-Pierre, anche quello, ho trovato molto di cattivo gusto, anche lui come attore, Pif. Non lo critico come attore, ma nel senso la sua parte, non so, è un insieme di tante cose, è una seconda che davvero secondo me fanno danno più che altro, non so, è un film molto sbilanciato, avrei preferito che, non so, avesse dato più spazio alla prima parte, l'avesse curata più lui, gli avessero concesso, se non è stata una scelta sua, delle persone più competenti. Io credo che uno sia appunto il problema che è un esordiente, quindi sia lui con i suoi limiti, sia chi gli ha dato la possibilità di fare il film. Non era Paolo Limiti, cosa stai dicendo? Non gli ha concesso un certo budget, certi nomi grossi, quindi anche il fatto, per esempio, della, come si chiama l'attrice? La Capotondi. Io l'ho trovata abbastanza al limite del decente, magari meglio di tanti film che ha fatto, perché pure lei c'ha qualche polpettone di commedia alle spalle. Credo che si sia dovuto un po' accontentare, un po' perché ha dovuto fare il film che mette d'accordo tutti, quindi ha dovuto metterci la storia d'amore, un po' perché gli hanno detto questo c'hai, fatelo bastare, lui deve pure esordire in qualche modo, e quindi ha detto va bene, e secondo me l'ha danneggiato parecchio come film, poteva essere molto meglio, non per forza diverso, però fatto meglio, soprattutto a livello di sceneggiatura, ecco. Martani è addirittura colui che ha dato il via a tutto, che lui ha visto una puntata del testimone dedicata alla mafia e ha detto: Piff, non è che hai qualche idea, qualche materiale? E evidentemente Piff ha scritto gran parte e lui ha messo il resto, quello per tappare. Ha fatto la sceneggiatura, diciamo. Sì. Cioè, Piff il soggetto. E... Ma non date retta a noi. Piuttosto, sentite, il presidente del Senato Pietro Grasso ha definito questo film la migliore opera cinematografica sul tema che la mafia abbia mai visto. Sul tema mafia che abbia mai visto. Ma Pietro Grasso mentirebbe per un po' di marijuana? No. Noi crediamo di sì. Quindi vabbè, stiamo toccando le 2 ore e mezza e manca un film. Avete 2 opinioni per una volta abbastanza distanti, fateci sapere la vostra, ma soprattutto andate a vederlo, così date... Sì, se dovete andare a vedere un film italiano, ce ne sono due piuttosto... che hanno guadagnato quasi, uno quasi 50 milioni, l'altro più di 3,5, dateli a questo, che gli servono. Almeno quell'altro lo tolgono dalle sale, finalmente. Vabbè, sì, questo dai, il prossimo lo facciamo sbrigativo, tanto è anche questo un filmettino, sì, che è bello, sì, piccolo. Beh, hanno detto tutti, va bene, più è meglio è. Vabbè, 2 ore e mezza, contenti voi. Ci avete un mese per ascoltarlo. Magari la prossima si può fare la settimana prossima, perché esce un po' di roba. All Boy e il film di... cioè, no, la prossima. Yeah, sì. Woody Allen e poi anche... vabbè, uno che è già recensito. Sì. Niente, il prossimo è Don John. Un altro esordio oggi, un sacco di esordi. Ed è l'esordio alla regia e alla sceneggiatura di chi? Joseph Gordon-Levitt, che ormai insomma un attore affermatissimo, ha fatto un sacco di film, molti belli, molti carini, non tutti eccezionali, è un attore, un certo tipo di cinema, però ha una sua etica, ha fatto anche un cinema indipendente più impegnato, e finalmente esordisce con questo progetto che non apparentemente molto poco impegnato, specie dal trailer italiano, non si direbbe. E è la storia di John Martello, per gli amici Don John, che quindi che sia un modo di... Anche vedi, cannone, cioè... Martello, cannone, pensavo invece al protagonista del film prossimo di Anderson. Come si chiama? Quello interpretato da Phoenix, vabbè, non mi viene. Un nome simile. Pistone, no? Pistone, Gio Pistone. Insomma, è un... come si capisce dal nome, insomma, è un italo-americano che ovviamente vive nel New Jersey, ed è un po' l'archetipo che vediamo in programmi come Jersey Shore, di cui io e il Monco siamo dei grandi fan. È vero. Anche se è scaduto un po' negli ultimi tempi, però insomma noi ci crediamo ancora. Non crediamo nelle imitazioni come Gandhi a Shore. Sì, l'ho visto. Te l'ho detto, è terribile. Siamo degli osservatori dei fenomeni di costume, quindi non ci facciamo piacere tutte le pietanze di questo stufato culturale. E comunque, insomma, è il classico Tomber de Femme cafonazzo, ha la sua tana, la sua macchina sportiva, la sera va nei locali e ogni volta porta a letto una ragazza diversa, e poi fa una cosa strana che non fanno tutti quelli come lui. Dopo che ha fatto sesso va a masturbarsi davanti a un porno. E perché? Perché lui ha una sorta di ossessione, è convinto, insomma, non riesce ad avere con le donne quel trasporto che ha invece con la masturbazione davanti ai video porno, perché secondo lui le donne di questi video sono diverse, sono migliori delle donne comuni, quindi lui ha questo sogno di trovare una donna da 10, e questa donna la trova, è Barbara, interpretata benissimo secondo me da Scarlett Johansson, che fa una cafona, non proprio la tipa del New Jersey, però più o meno è lì, ecco, è un pochino più a modino, ma è una vera cafonazza sotto sotto. Insomma, secondo lui è una tipa da 10 e ci comincia una relazione. Solo che lei scopre che lui ha questo problema con la pornografia, insomma inizia un tira e molla di liti e riappacificazioni, e lui deve insomma venirne fuori. E tra l'altro proprio mentre questa relazione procede per alti e bassi, conosce Esther, interpretata da Julianne Moore, che è una donna un po' tormentata, non si capisce da cosa, che attrae insomma l'attenzione di John. E insomma, come si capisce un po' dalla sinossi, è un film, è una commedia romantica, apparentemente molto leggera, nella realtà un pochino meno di quello che sembra. È un film su su degli stereotipi che poi in realtà sono spesso confermati, su questi giovani di oggi che hanno un rapporto particolare con la sessualità, con le immagini, con il video. E gioca in modo intelligente, insomma, con questi stereotipi. Tra l'altro poi per una prima regia non è affatto male. Insomma, racconta con uno stile videoclipparo, insomma, quello poi che racconta i programmi come Jersey Shore, la vita di questo ragazzo, quindi una routine fatta di trombate, masturbazioni, palestra, ripetute a oltranza, finché arriva la domenica, si va in chiesa e si chiede perdono, in cambio della solita dose di padri nostri, pater nostri. E quindi, insomma, ironizza poi appunto anche sull'idea della Chiesa, sul rapporto che questi giovani, questi italoamericani hanno con la Chiesa, un po' ipocrita, un po' ipocrita da tutte e due le parti, insomma, a doppio senso, visto che lui non trova riscontro, no? Una settimana si masturba come un pazzo e gli danno 10 padri nostri, una volta non la fa e gli danno sempre 10, dice ma come? Anche se poi qualche soddisfazione se la prende. Insomma, è intelligente, giustamente intelligente, rimane leggero, rimane fondamentalmente indie, spensierato, ironico, però ha un sottotesto che emerge, ha i suoi didascalismi, ha la sua ingenuità, insomma, dopo un inizio così tende a diventare più politically correct, ma a mio avviso neanche tanto, perché poi si riprende con un finale che io ho apprezzato particolarmente, perché credo che sia abbastanza coraggioso, mentre in altri film questo tipo di soluzioni non vengono lasciate troppo tempo in sospeso, ecco, si tende a liquidare certe cose perché forse sono sconvenienti, però giustamente un film che parla di masturbazione, porno e fiche non poteva poi per coerenza porsi certi problemi. È bello, è un finale che a me è piaciuto molto, è coraggioso, è simpatico e arriva dopo una fase centrale forse un po' più di stanca. Però è un bel esordio, una regia che insomma già c'è per uno che non ha mai diretto nulla. Beh, no, ha diretto 5-6 cortometraggi. Però, No, vabbè, sì, un lungometraggio è il comunque. primo lungometraggio, è diverso, ma insomma si vede già che c'è un po' di mestiere. La sceneggiatura non è una prova di cannone neanche questa, però insomma, anche qui, sempre di esordiente si tratta e abbiamo un soggetto abbastanza valido. Sì, poteva usare un po' di più, non è bilanciatissimo, credo che la prima parte, quella diciamo più comedy, venga abbandonata troppo rapidamente, mentre nella seconda entriamo proprio in un clima più serio. Quindi c'è non so, una leggera rottura a un certo punto che ho avvertito, però niente di catastrofico. Un filmetto piacevole, piccolo piccolo, ma insomma un esordio promettente. E Gordon Levitt simpatico, forse non ha il viso giusto per fare il cafonazzo italoamericano, però ci sta. In origine il ruolo doveva essere di Channing Tatum, che però c'è in una comparsata abbastanza divertente. Ho gradito particolarmente lo spezzone in cui compare lui e un'altra attrice famosa. Beh, mi è piaciuta molto, come ho già detto, Scarlett Johansson, che è particolarmente brava nella mimica, è stata un po' imbruttita, un po' incafonita, un po' inghiattita forse anche, però a me piace tantissimo, io sono un suo fan, anche se fa film brutti spesso e non è un'attrice fenomenale, mi piace. Una bellezza d'altri tempi. E Julianne Moore, che a me piace un sacco anche come donna, è brava, insomma, fa un ruolo che, come detto Alò, ricorda quello che l'ha lanciata in Boogie Nights. Ci ho pensato mentre lo vedevo, poi sono andato a leggere, anche lui ha notato questa cosa, addirittura lui sostiene che quel ruolo abbia in qualche modo influenzato, ispirato Levitt, non lo so, Si però è vero, cioè. masturbava. Sì, può darsi, sì. Sperava di avere un pene enorme anche lui, invece. Marchi, Marchi. Sì. Tra l'altro, ho letto, io non ci ho fatto caso, nella colonna sonora c'è una canzone cantata da Marchi Allora, Marco, è in un altro film di quelli stupendo. che ho visto, non mi ricordo. E niente, vai tu. Sì, mi è piaciuto tantissimo l'inizio, credo sia uno degli inizi più scioccanti, soprattutto per la ragazzina o anche la coppia di ragazzini che è mette tra i suoi film più belli di tutti i tempi 500 giorni insieme, si chiamava, comunque 500 days, in cui è esploso insomma il fenomeno Joseph Gordon-Levitt, e qui quel personaggio se lo ritrovi davanti in un modo totalmente diverso. Non va subito sul sodo, ti dice subito che si masturba di brutto sui porno e te ne spara a raffica davanti uno dietro l'altro. Poi c'ha quei capelli orribili, la canottiera, i muscolacci, è scioccante, ti annichilisce un inizio così, dice ma che gli è successo? Robin! No! Vabbè, quello non è un altro, chi ha capito ha capito. Sì, è un ritratto perfetto di quel tipo di persona. Ci vuole intelligenza per mettere in scena quel tipo di persona che non ha intelligenza. Sono tante piccole scene che sono veramente delle perle. Una su tutte è quella dove vanno al cinema. Quante volte non avete avuto davanti a voi uno così? Il palestrato che porta la ragazza al cinema, il palestrato che grosso come due armadi, che ti guarda storto, ma è al guinzaglio della fidanzata che lo porta a vedere la romanticheria più stupida del mondo, non sa che film va a vedere, non sa di cosa parla, però compra un mucchio di popcorn, le bibite, non ne frega niente del cinema, sta solo facendo, sta solo portando, è solo portato al guinzaglio dalla fidanzata. Poi aggressivo al volante, addirittura inchioda e spacca il vetro a uno davanti. E poi, come tutti questo tipo di persone, va in chiesa subito dopo, perché insomma è così facile ammettere le proprie colpe, non ha più neanche senso, se è così automatico fare una cosa e subito vieni perdonato. La religione cattolica è perfetta per rimanendo in tema mafia, per questo tipo di persone, perché tanto vieni perdonato, cosa devi dire? Per un mafioso cosa saranno? Un migliaio di Ave Maria, chi sarà mai? O una settimana, per dirlo. È quasi un film più doveroso di quello di Piff, mi spiego, perché molti potrebbero capire di avere un problema. Il personaggio non è molto lontano da quello di Shame, come diceva Alò. Ormai Alò è il nostro idolo. Sì, poi è vero, una cosa ho dimenticato di recitare, che avevo messo anche nella recensione, fa pensare a Shame. Perché? Un personaggio quasi identico, Shame, solo che è spostato dall'altro lato del fiume. Sì, Shame è, come vi ricordate, è tutta un'altra cosa, cioè lui non ha... cioè i personaggi sono molto simili, rimorchiano quando vogliono, non hanno nessun problema a portarsi a letto qualcuno, però il problema di Fassbender in Shame è che è proprio una dipendenza, lui non può smettere, è un erotomane, se non ha una ragazza sotto mano deve metterselo in mano e trovare altro. Lui è differente la sua dipendenza, come dice spesso, lui potrebbe smettere e sono sicuro che ci riuscirebbe, ma il suo problema è quello appunto che il porno gli ha creato un mondo totalmente diverso, che potrebbe essere un'altra cosa, cioè se uno è appassionato di action e sono i film action, cioè quanti possono avere un problema di questo genere. E poi che volevo dire, lo fa in una scena, quella del panino, la ragazza che si mangia il panino al merluzzo, mi sembra, che punta il dito contro i media, e anche quella è una bella accusa, è vero, ormai, cioè una volta c'era la fascia protezione dei minori, ti ricordi? Solo alla sera potevi far vedere certi spot, certe trasmissioni, adesso Beautiful all'una del pomeriggio fa vedere scene di sesso esplicito, ci sono pubblicità di panini, che sono la cosa più lontana dall'erotico, con ragazzi in bikini, e tra l'altro è una pubblicità vera, è stata mandata in onda durante il Super Bowl, quindi bene. Non è neanche un'esagerazione che dici l'hanno caricata parecchio, no, è tutto vero. E questa è una bella denuncia, facile perché è sotto gli occhi di tutti, soprattutto qui in Italia, una certa TV spazzatura, ecco, abbiamo parlato fino adesso, però insomma È una sceneggiatura che non sarà il massimo, ma punta il dito molto bene ed è molto intelligente e soprattutto è più profonda, non solo del trailer, ma di quanti molti l'avevano pensato. Mi sembra che tu avevi detto che Nocturno ne aveva parlato come un film non tanto riuscito sotto questo punto di sì, vista. Sì, non ricordo bene la recensione, era veniva da un festival che non ricordo qual è, e sì, comunque Sundance. può darsi, sì. No, beh, loro non credo che parlino del Sundance, era ripassato in qualcuno di quelli che insomma recensiscono loro, però comunque non erano critiche severe, il tono era chiaro, secondo loro non era riuscito proprio per quello che è, come commedia, come satira, non ricordo, vai a rileggerla. E ultimo, quando in una particolare scena lui vede un volto. E dice: quando vedo questo volto mi viene il cazzo di marmo. Non dice proprio così, però Molto diretto. gli viene duro. E sembrava proprio il Peppe Fetish che conosciamo tutti. O comunque nella versione italiana poteva dire che gli veniva il cazzo duro come la coda di un canguro. Anche quello sarebbe stato bello, Sì. così per dire. Va bene. Abbiamo finito. Anche stavolta. Mezz'ora avevamo detto. Sì, è una robina proprio di... dai, è lungo come il cavallo di Torino, questa puntata, e sarà ugualmente angosciante ascoltarla. Sì, dovrete morire. Ultima cosa. Per chi è appassionato di cinema molto, molto più che indipendente, in questi giorni My Movies la sera fa... come si può dire? Proietta? No, non si può dire proietta. Sì, loro comunque scrivono proiezione. Ah, vabbè, proietta dei film riguardanti il 54esimo Festival dei Popoli. Probabilmente non avete sentito nessuno di questi. You Men, My Stolen Revolution, Mon Père, La Révolution et moi, The Master of the Universe. L'ultimo magari sì. Poi ieri c'era By the River che io ho visto a Locarno. Non è che vi stiamo dicendo di vederli, però se vi Comunque interessa. guardate perché hanno aggiunto roba e non solo dal festival, c'è parecchia robetta, fanno Burkehead di Landis che è un carino, cioè Ora parliamo di Kevin, sempre con Tilda Swinton, cioè Cesare deve morire dei Taviani, da vedere assolutamente, e poi altre cose straniere che non conosco, però io ho visto ieri By the River, e la qualità ieri era un po' strana, poi avevo visto il documentario di Tar, ma il servizio funziona, sempre più ricco, chiaramente quello a pagamento è più interessante, rifanno i film ma a pagamento, tipo quello di Bellatar. Se vi va potete fare l'Unlimited, che non è malissimo, perché i prezzi ho visto sono dignitosi. Se non sbaglio, 1 euro una settimana o qualche giorno, 3 euro, anche quello annuale costa una fesseria. E c'è un bel programma comunque. La qualità è buona, sì, si può pensare. Prossima settimana esce un film che abbiamo già recensito, è Dietro ai Candelabri, che era anch'esso a Cannes, è uno di quelli che magari riesce a stare dietro alla vita di Adele. E poi escono i due filmoni che cercheremo di vedere entrambi, sì, anzi, Sì. vedremo Al cinema entrambi. arriveranno, credo, Sì. sicuramente. Cioè, Allen c'è sempre arrivato. Sì. Oldboy, non lo so, però penso di sì. Oldboy che su IMDb viaggia al 4.4, però Madonna. è sempre più curioso. Adesso, per me non sarà, ovviamente a livello dell'originale, non sarà bellissimo, ma molti di quel 4.4 sono fan inferociti, perché quanti adesso, anzi un mese fa, dicevano è una merda, non andrò mai a vedere. Noi Sì, andremo, io poi vediamo. sono contrario all'atto in sé, soprattutto perché Spike Lee mi piace, non solo perché Sì, non voglio il remake, non capisco la necessità, cioè, spero ci abbia guadagnato abbastanza da fare film più personali. sai cos'è bello? È che Oldboy, mostro sacro, guai fare remake, lo fa Spike Lee, è una merda. La ragazza che giocava col fuoco, com'era l'originale? Uomini che Ah, odiano le sì. donne, bellissimo, guai Sì, a è arrivato il toccarlo. Padre Eterno. Lo fa Fincher. Ah, ma cavolo, ma sai che è bellissimo? Ma come? Avete detto fino ad un attimo prima che i remake, guai, soprattutto di film bellissimi europei. Voglio vedere, è per questo che io non lo sto massacrando, prima di tutto perché Spike Lee mi piace moltissimo, e poi mi piace tanto quanto Old Boy, l'originale ovviamente, vedremo, non voglio bocciarlo a priori, che modo è? No, quello non ha senso, assoluto farlo in modo così infantile, cioè dare il voto perché sì, sei come i fan di Nolan che davano 3-1 al Padrino per farlo scendere. Cioè, quella vabbè, roba che fanno i bambini, chi se ne frega. Bene, quindi basta. Sì, basta. Sì, che cazzo, lasciateci in pace. Magari andiamo al Courmayeur Noir. No, però c'è. Ed sì. Anche questo è live su... Infatti c'è qualcosa del Courmayeur Noir, però roba delle vecchie edizioni, credo. Ah, ecco, infatti sto guardando. Gorbaciov è vecchio. Sì. E vabbè, poi, insomma, vi terremo aggiornati. Bravo. Un saluto. Ciao. Ciao.